insomma, ho sofferto lo stesso, se la cosa può darvi soddisfazione. No, vabbè, ma noi mica godiamo delle non sofferenze poco, altrui, no? Tanto sofferto, ancora sto soffrendo, ancora rosico. Ancora rosichi, ancora rosichi. Non è passata, insomma, non sono uno che la prende sportivamente. No, mi rode. Ma pensa adesso dopo mezz'ora di Radio 24, adesso si comincia col bar, la colazione. Chi vede? Vabbè. Senti, lo senti Venditti in sottofondo? Vabbè, insomma, Venditti. È la cosa meno peggio, non è il Venditti. Questa che ma dimmi un po', ma che succede quando c'è Roma Juve e la Roma vince? Come lo ieri? Juventino dovete sapere che vive la questione, quelli nati come me, diciamo, negli anni 70, hanno come vero derby Roma Juve, anche i romanisti nati negli anni 70, sono, diciamo, vulnerati dal gol di Turone, e da allora per loro il vero partitone è Roma Juve. È chiaro. C'è il surplus del dato emotivo. Io da tipo 40 anni tendenzialmente vinco sempre, sì, quando perdo è faticoso. Ma che fanno? Ti riconoscono per la strada, ti dicono. Oh, certo, come dire, poi così è... io vado a fare colazione a testa, ci sono testaccino. Diciamo, certo. Quindi stamattina che succede quando ti incontrano? Oh, eravamo fatti due. Vabbè, però Mario Di Rolfi è uno così, mica si nasconde, mica si chiude in casa. No, io dico, ragazzi, Deutsch. Fa finta di essere straniero. Mario Di Rolfi, no, sono il gemello. può essere Vincino. Secondo te è uno che si sa, può nascondere tra la folla? No, è difficile, è veramente difficile. Che si nasconda. Il gemello funziona. Sì, sono mio fratello gemello. Sì, sono il fratello gemello romanista. Effettivamente, effettivamente. Guarda che vanno in crisi. La gente rimane un po' spiazzata. Vabbè, caro Vincino, apriamo il Parlamento, perché bisogna capire dove siamo rimasti. Allora, all'immigrazione. Prendere un caffè, quindi all'immigrazione. Siamo rimasti ieri. È una giornata di Renzi. È un culo pazzesco. Perché Renzi è un culo? Perché ieri ha un culo pazzesco. Perché ieri lui fa l'intervista a due pagine su Corriere della Sera, sì, proprio l'intervista più noiosa del mondo. Mi dispiace per il mio amico Carzullo, che magari è noiosa per le risposte adesso, non per le domande. È noiosa per tutte e due, insomma. Però lui ha avuto un culo pazzesco, perché in Inghilterra vincono tre italiani, no? Vince Valentino Rossi e immediatamente gli inglesi si arrabbiano e dicono: gli italiani mai più in Inghilterra, solo se hanno un contratto di lavoro, e via. Trova un giacimento di petrolio in Egitto, sì, pazzesco, una cosa enorme, e quindi un sacco di soldi, potrà fare tutte le stronzate del mondo, i 90 euro, i 200 euro, una cosa, tanto paghiamo in barili di petrolio, barili di petrolio, sì. Il culo maggiore di Renzi, quale? Renzi non ha un numero 2. Cioè il disastro di Prodi è che aveva il numero 2 D'Alema pronto, appena fa un piccolo errorino passa, arriva D'Alema e l'ammazza, e D'Alema aveva Veltroni, paff, fa l'errore e paff, lo frega. Allora, Renzi non ha il numero 2, invece non ha il numero 2, come Berlusconi che non aveva il numero 2, esatto. Dura 20 anni. Infatti hai nominato D'Alema, l'uomo che più di tutti gli amici del Parlamento vogliono ascoltare. Io non so, l'uomo che... Perché sorridi, Vincino? D'Alema, che nei giorni scorsi ha rimproverato a Renzi che cosa? Questo paese, non è vero che per 20 anni c'è stato il berlusconismo e l'antiberlusconismo che si sono annullati a vicenda. Non è che io dico che bisogna ispirarsi al passato, ma neanche sputarci sopra per far finta di essere grandi, diciamo, una via di mezzo, eh. Capito, Di Rolfi, D'Alema che ritorna ogni tanto così, butta le sue zampatine sempre col suo tono. D'Alema sembra a me oggi, diciamo, rosica tantissimo. Esatto. Proprio così. E il problema è che il suo è permanente. Io penso che fra 15 giorni, ecco, giocherò col Chievo e mi passerà. Lui non gli passa, questo è il problema. Sta proprio male, capito? Però condividi la lettura di Vincino, dice che Renzi ha un grande culo perché l'ENI ha trovato il più grande giacimento della storia del Mediterraneo in Egitto. Proprio di questo, è quella una gran bella notizia. Sì, infatti. Finalmente la gran bella notizia. Non so se porterà bene a Renzi, ma porta bene al paese. Quindi questa è una gran bella notizia. Una volta tanto gli italiani, ma qualcosa di grande dal punto di vista economico. Anche i 5 Stelle rosicano, eh. Anche 5 Stelle rosicano. Rosicano, perché loro, come dire, il petrolio non lo sopportano, cioè, eccetto che per i motoscafi di Grillo e le jeep di Grillo, il petrolio per il resto lo odiano. No? Per ecco, cui questa cosa qua, troviamo tutta questa cosa, loro stanno malissimo, non... loro erano là da 2 mesi pronti, ecco qua, ora tac, cade Marino e Marino non cade, ora cade il governo non cade, no, e niente. Però se ma aspetta che ci arriviamo anche a Marino, senti, Adinolfi, senti ancora D'Alema che dopo aver detto non bisogna sputare sul passato per sentirsi grandi, dice che il PD in fondo ha perso 2 milioni di elettori. Con chi andiamo alle elezioni? Con Casini, Alfano, Cicchitto e Verdini? O cerchiamo di rilanciare una prospettiva di centrosinistra? Da quel 41% i sondaggi ci danno al 30%. Quindi nel frattempo è successo qualcosa, diciamo. Siamo persi per strada 2 milioni di elettori. Ci sarà una ragione. Eccolo lì, ci siamo persi 2 milioni di elettori. Vincino e Adinolfi, che non ce la fa. Marione, che dici? Ma io dico, se dal 41 è passato al 30, al PD, D'Alema deve ricordare che le elezioni sue, diciamo così, hanno preso il 25. Quindi è sempre buono il 30. Non lo so, il dato mi sembra essere attenti a D'Alema e come essere attenti all'antiquario. All'antiquario. Vabbè. Ma poi i sondaggi estivi, come dire, sono cose non, cioè, quando ci sono le elezioni poi cambia tutto. Sì, ma comunque insomma ci siamo persi 2 milioni di elettori. Renzi ha detto voi stavate al 25%, io ho portato al 40%. Vabbè, ma non è cambiato niente. Ecco perché sulla questione dell'immigrazione, che rimane un tema centrale, io oggi avrò Salvini vicino alle 8:15, sei contento? E quello là non manca mai, no, infatti. Cioè non è mancato un giorno, sai, non ha fatto un giorno di vacanza. Perché ho aperto ieri il ripostiglio, è uscito Salvini, gli ho detto ah Matteo, allora domani posso invitarla, e lui ha detto sì. Gli hai del lei? Sì, vabbè, sì. Gli ma siete tutte e due di Milano là. Ma cosa c'entra? Parte. Perché io scendo in strada e do del tuo a tutti quelli di Milano, non ho capito. No, vabbè, dica del lei. Non mi sembra, uno da del lei a una persona anziana, importante, cosa? Un setto di dai, che cazzo, un cambiamagliette come lui, madonna mia. Ma no, ma dai, ma cosa dice Adinolfi? Cambia ogni giorno la maglietta, la cosa, quell'altro, tutte quelle cose. Adinolfi, di qualcosa, tu gli dai del lei a Salvini. Difende Salvini, no, non ci credo. No, no, ma però gli dai del lei a Salvini. Ma no, ci incontriamo, ci diamo il tu, però il mestiere suo sappia fare. Non credo che sia quello che Vincino direbbe il numero due o l'alternativa a Renzi, però la mossa di dire faccio il ticket con Berlusconi, secondo me è una mossa politicamente non scema, e dimostra insomma come, anche perché poi c'è una questione interna alla Lega che non è stata ancora raccontata dai giornali, che i giornali purtroppo non capiscono la politica, e invece andrebbe molto approfondita, perché per esempio Maroni o Zaia sono soggetti che a Berlusconi sono più graditi, sono la dialettica per la costruzione di questo ponte di centrodestra col berlusconismo e questa Lega che oggettivamente funziona, perché sono leghista, non mi sta simpatica la Lega, ma funziona, prende voto elettorale. Quella saldatura col berlusconismo è invece un'alternativa a Renzi, c'è insomma. Il problema è capire se Berlusconi ha interesse a mettersi, come dire, dentro un rapporto da azionista di minoranza con un Renzi, con un Salvini che è molto, diciamo, preponderante, oppure se costruirà un ponte con qualcuno nella Lega per mettere, come dire, all'angolo Salvini. Questo è visto che i giornali non la sanno spiegare, fatta spiegare a Mara Adinolfi. ecco allora. Ma che prima capiva di politica Adinolfi, oggi ecco, vedi subito, allora, il primo critico, c'è, cioè il primo critico. Berlusconi è da 2 mesi, da 3 mesi, da 6 mesi propone il ticket, no. Due, Berlusconi per vincere va con la qualunque, come ha fatto con la qualunque sempre, la sua via, salda con fascisti, con i stronzi, con i testa di cavolo, con tutti. E per vincere Berlusconi fa tutto questo e l'ha sempre fatto. E tre, chi c'è? Quale alternativa c'è dentro la Lega? Chi? Maroni? Uno cotto e bollito come Maroni? Zaia, ma Zaia rimane nel Veneto, dire. Non è che non è vendibile altrove, no, per cui vabbè, vabbè, vabbè, comunque eccole qua le letture, le analisi di Adinolfi e Vincino. No, però dicevo, la questione degli immigrati che torna, che la notizia del giorno non è il grande vertice mondiale, non è il trattato di Schengen che vogliono sospendere, qualcuno dice di sì mentre Alfano dice di no, non è la nuova vicenda dei tir, le vergogne, cioè, non è Londra che vuole chiudere le frontiere anche a quelli dell'Unione Europea che non hanno un lavoro, la notizia agli italiani, sì, anche agli italiani non avete un lavoro, cioè praticamente gli italiani senza un lavoro non possono andare più a Londra, forse. La vera notizia viene dal candidato repubblicano Christie in America. Christie fa questa proposta, come dire, giudicatela voi, se diventerò presidente farò in modo di creare un sistema per tracciare gli immigrati come i pacchi postali della FedEx, la società per la quale se spedisci qualcosa in America puoi sapere il tuo pacco dove sta, su un camion, la stazione, tracciarlo, seguirlo. Vincino, ma questa è un'idea geniale. Ma un'idea ma è straordinaria questa. È che là lui deve deve fare la concorrenza al Donald Trump, al meraviglioso capello là, capello là, fluente, ragione, Trump, fluente là, il quale stravincerà praticamente, no? Il futuro presidente americano Donald Trump. Non è che Christie è quel pacchione là del New Jersey, dello Stato del Soprano, non ha nessuna speranza, no? Donald Trump con i suoi grattacieli là e quindi dice doveva fare questa buttata, doveva farsi vedere, doveva fare questa buttata, non lo so, vediamo. Marione, tu... non è che solo la Fed, anche tutte le grandi compagnie, l'UPS, la cosa, tracciano i loro tracciano i loro anche le poste italiane, se spedisce un pacco, le poste italiane non tracciano niente. Marione, tu che bazzichi in America, ti sembra una cazzata questa o... Ma ovviamente è una cazzata, però dentro la dinamica delle primarie americane è molto interessante seguire quello che dicono, perché ha come dire, spesso un riverbero che dopo anni arriva pure in Italia, quindi è sempre molto interessante la dialettica, perché è una dialettica politica vera, attenzione. Cioè, ma perché secondo me dopo anni, secondo me qualcuno questa cazzata delle poste la tira fuori anche adesso in Italia. Copiarla proprio immediatamente tracciarla. Non è una grande genialata. Di solito passa un po' di tempo, uno si scorda che è una proposta di Cristi americana e viene ricalcata. Lo dici oggi, diciamo, allora che si pensano allora sei un copione, aspetta un mese, no, che la gente si dimentica di questa cazzata e trac, la tiri fuori tu in Italia, magari. Però una cosa interessante, ovunque la questione centrale del dibattito politico è l'immigrazione. Questa è una cosa deve farci capire. Se è lo stesso tema, che è quello cruciale nella primaria degli Stati Uniti e nelle dinamiche ormai di tutta l'Europa occidentale, che ha questo tipo di problemi, evidentemente questo è un tema su cui bisogna mettere le mani in maniera seria, altrimenti fioriscono appunto le fantasie. No, ricordiamo che Trump non è che ha proposto una cosa da poco, ha detto il muro col Messico, ha detto una cosa un pochino più surreale della tracciatura FedEx, che ovviamente è una buttata, costruire un muro al confine col Messico è quello che l'Ungheria, peraltro, per dire sempre, allora attenzione, questo è un mondo di muri, è una cosa cui bisogna per ragionare. Lo trovi questo ragionamento sui giornali italiani? No, ma figurati. Ma meno male che c'è il buon Mariano Adinolfi. Allora, che mi immaginavo Adinolfi tracciato, no? Che vive in America e lo beccano sempre dove lo beccano, a Las Vegas. Sempre a Las Vegas a giocare a poker. Allora, intanto molti mi dicono: sono contento, sei tornato finalmente, ringrazio Lavinia, guai se sparisce ancora. Michele da Gorizia, Anna da Treviso, ben arrivato, c'è chi mi dice torna pure in Costa Rica, evviva, ma magari c'è chi mi scrive invece bene o male che sei tornato, ti sto ascoltando e sono io in Costa Rica, mamma mia quanto ti invidio. Sei in Costa Rica in questo momento e ci stai ascoltando, ma fai di meglio peraltro. Se sei in Costa Rica, comunque c'è anche chi scrive: Vincino, sei un cretino. E va bene, siamo tutti qui alle 6:45, il momento del traffico. Torna poi la nostra segreteria telefonica. Mina e Danny, sei sul posto del traffico, va? 4 mattino. Cosa? Più di un mese di fede ti fai? E poi debosciati siamo noi, eh? Alessandro Milan, il piangina dell'informazione. Milan, chiaramente hai toccato il livello più basso di Radio 24. Dovresti andare a condurre Radio 105. Che ti dica Alessandro, tu stai in serie, Marino sta in serie, e che ti devo dire? Tanto non mi farai sentire, io non so con chi sfogarmi e sono una romana delusa. Milan, sta se venendo in tre, eh? Lazarum, dun Lazarum! Ciao Milan! L'estate sta finendo e Milan tornerà. Finite le vacanze, sai come piangerà. Dai Emina, ricominciamo! L'estate sta finendo. Beh dai Marione, sono migliorati, eh? Che dici Marione? Insomma, c'è sempre questo dato psicotico, quello di fondo. No, ma che, ma che psicotico? Quello lì che fa la canzottina, insomma. C'è sempre un po' questo tratto, ognuno al pubblico che si coltiva, ma perché? Perché ce l'hai col mio quello pubblico? Quello che si è messo a piangere in diretta, no. Uno che fa la frase compiuta mai. No, ma no, ma certo che ci sono. Poi tagliamo, editiamo. È colpa dell'editing. Vabbè. Che quello devi... dello zappone ancora non c'è. Lo zappone, no, ma lo zappone è storico. Se vuoi te lo metto quello. È vero, che Vincino mi ha mandato su Twitter, mandava le foto con la zappa da 7 kg proprio nel suo orto di Mondello. Ma che coltivi lì a Mondello? Che c'è? Pomodoro. No, era solo una cosa scenografica. Ah, non c'è niente. Foto. È no, tutto brullo. Questa zappa, allora mi sono messo là e ho detto dai, mandiamo questa foto. Vabbè, ma coltiverai un po'. Ma ci vuole sì, la zappa da 7 kg. A Zappalucambo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro e a cena una minestra scunnita. Eccola qua. Per la verità, Vincino, questa è la ricetta che il nostro zappatore propone per i politici, eh? Quindi ha ragione, assolutamente. Zappa da 7 kg, Allora, siete due abitanti di Roma. Vabbè, Vincino adesso sì. Sta a Mondello, quindi vabbè. Roma, Marione, quanti sindaci c'hai adesso a Roma? Roma. Gabrielli, no? Gabrielli è il sindaco, Gabrielli. Più che sindaco, diciamo, c'ha tutti i poteri. Dai, no, per Marino è un po' tosta però sta cosa, e non so come fa, vabbè, ha detto io resto in ferie, ha detto così, la sua risposta è stata questa. Resta in ferie. Però... Marino ha una faccia di culo come proprio pochi, guarda, diciamo, farà finta di niente all'inizio, assolutamente. Comunque io devo dire, io qua da Palermo c'ho un grande sindaco che è Orlando, che è un sindaco eterno in un certo senso, ecco, no? Ecco. Che è passato, aspetta, ha lanciato la carta di Palermo, praticamente per dare, abolire il permesso di soggiorno. Abolire tutto, è diventato il più anarchico di tutti, praticamente. Invece Marino non c'è. Il problema è adesso che non c'è. Allora, intanto c'è questa vulgata. L'assessore Esposito, che io avrò ospite alle 8:40, ha detto: Marino è sfortunato. Tutte le volte che non c'è succede qualcosa. Quando si tira in ballo la sfortuna in politica, secondo me questo è l'errore più grave. Adesso gli ha dato dello sfigato. Figurati adesso i giornali. Qui ad Inolfi invece i giornali inizieranno il dibattitore. È sfigato o non è sfigato? Ma Marino, i dibattiti stupidi, i giornali sono bravissimi a tirarli su. Ma anche questa dichiarazione Esposito, tutta la conchiglia la dai 9-20. Ma che dichiarazione? Per carità, è sfortunato. Tra l'altro Esposito però, che ha proposto 1.000 euro per gli autobus stupendo, che entrano a Roma. 1.000 meraviglioso, meraviglioso. Questo ti piace? Grandioso, assolutamente. Oh. No, perché io vivo io quando vivo a Roma, no, sì, vivo in un posto sfortunato, pieno di pullman da tutti i lati, tra Colleoppio, il Colosseo, è pazzesco. È una che sfiga vivere tra Colleoppio e il Colosseo. Ma perché si respira malissimo. ragazzi stanno sempre con l'aria condizionata accesa. Non vai al diavolo, vai al diavolo. Senti qui comunque Zanetti su Marino. Anziché commissariare il comune, si è commissariato il sindaco. Certo, c'è il vice sindaco, il comune presidiato, ma ci mancherebbe. Ma sei il sindaco? Ma che cazzo? Ma dove adesso arriviamo anche alle polemiche politiche. Adesso anche la Santanchè, Marino. Gli hanno fatto questo cordone sanitario intorno, gli hanno messo due dita negli occhi perché il suo ex assessore al bilancio oggi torna ed è commissaria del debito. C'è Gabrielli che è sopra la sua testa, gli hanno messo intorno non so quanti tecnici, ma Dio mio, ma la faccia di un uomo, di guardarsi allo specchio e di dire non mi posso fare umiliare così perché gli hanno fatto fare la figura del cretino. Ecco, questo è Marione, se però tu non ci sei, poi dopo la gente dice di tutto e di più di te. Guarda, anche qui, ancora una volta, manca un filo d'analisi politica. Se Marino facesse analisi politica e domani tornasse e dicesse al PD, io me ne vado a casa, per il PD si aprirebbe un problema grande veramente come tutta Roma, perché per il PD andare alle elezioni adesso, sì, le perde, questo clima le perde. È perderle. Allora Marino avrebbe una sola arma, che è quella di mettere sul tavolo una pistola fumante, invece la sua arma di fuggire, diciamo, perché questa è la sua tecnica sempre, non è solo andare in ferie, è stata la tecnica di tutta la mafia capitale. Gli hanno arrestato il consiglio, perché non è tanto la questione Gabrielli, hanno arrestato il presidente del consiglio comunale, t'hanno arrestato mezza giunta, t'hanno messo in condizione di dirti Buzzi dava i soldi pure a te per la campagna elettorale, e lui sempre a fuggire rispetto al problema. Se lui in uno di questi passaggi avesse messo sul tavolo, diciamo, la pistola fumante per non essere volgari, ora la condizione che avrebbe il PD sarebbe implorarlo di restare, e avrebbe potuto dettare le condizioni. Perché Renzi non se ne può permettere le elezioni a Roma oggi. Sì, e invece, ma perché? Non è vero, Renzi con Adinolfi candidato sindaco vincerebbe alla grande. Adinolfi sarebbe un grande sindaco di Roma. Sì. L'unica cosa che potrebbe fare, guarda, non assolutamente. Vabbè. Perché? Ma a Roma abbiamo politici. Allora, chi abbiamo a Roma? Oltre ad Inolfi, che è già il largo e grande più qui. Vabbè, Vincino, sindaco, Vincino è così. In buoni rapporti con il papato, assolutamente. Dai, che il papato per una volta non l'abbiamo lasciato stare. La lotta sarà tra lui e Marchino. Ma tirate su Alfio Marchini, tirate sulle palette da 0 a 10, perché dovete dare un voto. Ti è simpatico intanto Calderoli, Vincino, Calderoli? Calderoli è insopportabile. No, ma non però è bravo come esatto. Come senatore, come... Come vicepresidente del Senato, lui trova degli emendamenti. Io vi chiedo di votare perché a Radio Rock ne ha beccato un altro, il buon Calderoli che canta. Senti qua. A bere De Luisi a Rossi Bar, oppure non ci incontreremo mai. Vabbè, c'ha il tutor come Gabrielli. Vabbè, questo è Calderoli che canta insieme a un tutor di meno Radio 3, Rock. Meno 10. Come meno 10? Meno 35, non ma lo no, so. Ma no, dai, meno dai, 2780, un incoraggiamento. Meno 500.000, niente. Mario, tu che hai cantato anche in Parlamento, che voto gli dai? Ma cantano in 10, non si capisce. Ma no, ma c'è il tutor, c'è il tutor. Che poteva essere chiunque questo, non classificabile, NC. C'è il tutor. Vabbè, vi lascio con l'inno del Costa Rica, dai. Perché io sono con il cuore ancora lì, in Costa Rica. Inno orrendo, mi sembra di capire queste poche note. Ci vanno i pensionati in Costa Rica. Non è vero, ci vanno i pensionati. Dai, vi saluto e vi ringrazio per questo primo Parlamento della stagione. Mi raccomando, alle 8:15 c'è Salvini, Vincino, stai con l'orecchio. Eccoci qua. Va bene. Di Zai e Maroni. Sì, di Zai e Maroni, va bene. Grazie, ciao. Ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui! Sono ritornato, cari ascoltatori. Per chi non si è ancora svegliato, razza di debosciato, e si sveglia solo ora, sono tornato dalle vacanze dopo 5 misere stringate, risicate settimane di vacanza. Eccomi qua. Allora, come al solito leggeremo i giornali in questa fascia. E poi intanto vi ricordo che tutto il mese di settembre andremo in onda fino alle 9.30, fino alle 9.30. Oggi avremo Matteo Salvini alle 8.15, ma avremo anche l'assessore di Roma Stefano Esposito. E poi parleremo dalle 9.05 alle 9.30 di tasse. Credete a Renzi che taglia le tasse? Avremo un responsabile economico del PD, Filippo Taddei, ospite. E tutti voi, ovviamente, le vostre telefonate. Insomma, siamo qui, siamo tornati e siamo pronti a leggere i giornali. Questo lunedì 31 agosto, finisce dunque agosto. Intanto i titoli dei giornali, Il Sole 24 Ore apre su quelle che sono le priorità di quest'autunno: lavoro, consumi, tasse nell'agenda del rientro. Questo è il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore, mentre la questione immigrati tiene ancora banco su tutti gli altri quotidiani. Vertice d'emergenza sui migranti, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Londra dice no ai disoccupati dell'Unione Europea. Per Repubblica, schiaffo di Londra, stop agli immigrati anche dell'Unione Europea. La proposta che viene dal ministro May, le frontiere aperte non funzionano più, dice Londra, e vogliono chiudere le frontiere anche per i cittadini dell'Unione Europea che non hanno un lavoro. Quindi abolire il trattato di Schengen, di fatto, propone Londra. Il giornale, frontiere chiuse per noi, è caos immigrazione, ora Londra vuole vietare l'ingresso anche ai cittadini europei senza un lavoro. Anche per il secolo XIX Londra stoppa gli immigrati anche dell'Unione Europea. Il Giorno invece mette questa terribile notizia di cronaca, migranti, orrore a Catania, coppia massacrata in casa, lui sgozzato, lei gettata dal balcone, è stato fermato un cittadino della Costa d'Avorio che era nel centro profughi di Mineo. Il Messaggero invece ha un'intervista al ministro della giustizia Orlando, intercettazioni sì entro l'anno, a settembre ok della Camera, approvazione per dicembre, mentre La Stampa, gas, l'ENI scopre un maxi giacimento a largo dell'Egitto. Torna sull'immigrazione anche l'Unità, dopo la proposta di Renzi ieri fatta in un'intervista al Corriere della Sera di chiedere di proporre il diritto di asilo europeo. Il titolo dell'Unità è proprio questo: chiedo asilo in Europa. Da cosa voglio partire però? Voglio partire proprio dall'apertura della Stampa, è una notizia che sicuramente inorgoglisce gli italiani e deve rendere orgogliosi tutti noi. Perché è la notizia che c'è su tutti i giornali ben sviluppata, l'ENI ha annunciato di aver scoperto un maxi giacimento petrolifero al largo delle coste dell'Egitto. Nel pozzo petrolifero Zohr 1XNFW, identificato con questa sigla molto molto strana, pagina 6 del Corriere della Sera, Egitto, l'ENI trova un maxi giacimento. L'ENI lo definisce il più grande giacimento di gas mai trovato del Mediterraneo. È stato scoperto in Egitto, la potenzialità per diventare uno dei più grandi del mondo, perché ci sono altre strutture sottostanti che possono essere investigate. È un giacimento che si trova nell'offshore egiziano del Mar Mediterraneo a circa 190 km dalla costa. Si trova a 1450 metri di profondità in acqua nel blocco Shoruk e si tratta di un giacimento cosiddetto super giant con un potenziale di risorse fino a 850 miliardi di metri cubi di gas. L'ENI ha la totalità della gestione e questa è la notizia sicuramente importante per l'Italia, ma non solo per l'Italia. L'amministratore delegato dell'ENI Descalzi dice: siamo da anni al top della ricerca, l'esplorazione è al centro della nostra strategia di crescita. Negli ultimi 7 anni abbiamo scoperto 10 miliardi di barili di risorse, 300 milioni negli ultimi 6 mesi. Descalzi fa anche un'intervista a Repubblica, intervistato da Andrea Greco a pagina 17, dice: forse avrebbe voluto, scrive Repubblica, che la seconda scoperta della storia dell'ENI non cadesse in un periodo di vacanze, visto che Descalzi dice: sono tornato sabato notte dall'Egitto stanco ma molto felice. Ma analizza quella che può dare l'indipendenza energetica al Cairo per dare stabilità a tutta la regione, dice Descalzi. L'Egitto di certo, in una fase in cui iniziava a importare gas da Russia e Algeria, con la messa in produzione del gas di Zohr diventerà autonomo e libererà gas aggiuntivo per le importazioni degli altri paesi. È un quantitativo rilevante quello dei nuovi 850 miliardi di metri cubi egiziani, ma sempre di complemento, e potrebbe arrivare direttamente in Italia via nave tramite l'impianto di liquefazione di Damietta. Ultimamente quel nostro impianto egiziano non era in esercizio per mancanza di gas, ma con questa scoperta potremmo in futuro riempire l'impianto di Damietta e imbarcare il gas al rigassificatore di Panigaglia o altrove. Dunque Descalzi sottolinea l'importanza di questa scoperta anche in funzione di stabilità energetica, e per tante volte vuol dire anche stabilità geopolitica dell'Egitto e di quella intera area. Anche La Stampa, che dedica appunto l'apertura a questa e poi pagina 2-3, si concentra su questa notizia, certamente importante per l'Italia. Ma venendo più alle cose italiane in senso stretto, come detto, noi avremo alle 8:40 tra gli altri ospiti l'assessore al Comune di Roma, Stefano Esposito, assessore ai trasporti, che nel weekend ha suscitato già molte polemiche per la proposta di aumentare a 1.000 euro il ticket per gli autobus turistici che entrano a Roma. 1.000 euro, voi pensate, adesso credo che sia 200 euro, comunque è una cosa non di quella portata. Voi immaginate quanti autobus entreranno, soprattutto in vista del Giubileo. Ebbene, la grana sui bus dei fedeli, no al ticket da 1.000 euro. Scrive Repubblica che c'è già la rivolta. Da parte di chi? Beh, dei tour operator, perché chiaramente cosa succede? Che se aumentano le tasse per gli autobus, secondo voi poi alla fine su chi ricadono questi aumenti? Ovviamente su quelli che a bordo dell'autobus ci vanno, dunque sui turisti. Eccolo qui, Alessandra Paolini, pagina 15 di Repubblica. La prima grana del sindaco Ignazio Marino, appena tornato dalle ferie, sarà grossa, come i 1.500 pullman turistici che nei prossimi giorni minacciano di mandare in tilt il traffico della capitale. Propongono infatti di protestare sotto il Campidoglio. Far pagare ai torpedoni 1.000 euro al giorno per entrare in centro storico è pura follia, dicono i rappresentanti dei tour operator, delle agenzie di viaggio, degli albergatori, di tutte le associazioni che di turismo vivono, e sono dunque pronti a bloccare Roma per questo aumento del 500% se l'assessore comunale ai trasporti Esposito non ritorna sui suoi passi. Eccolo qui, che non sarebbe stata una passeggiata, si sapeva già, questa stretta all'ingresso dei bus turistici. Stefano Esposito lo ha sempre saputo. D'altronde, appena diventato assessore, racconta Repubblica, aveva detto: prendo una sedia con allegata una ghigliottina a 2 centimetri dal collo, ed ecco che la ghigliottina rischia di arrivare subito con la protesta degli autobus, di coloro che gestiscono tutti questi autobus turistici, pronti a bloccare Roma. Staremo a vedere, ci manca solo questo già nel traffico di Roma. Immaginatevi, amici di Roma, se tra 2 o 3 giorni vi ritrovate 1.000 autobus a bloccare il traffico per protestare questo possibile aumento di ticket. Bah, non voglio neanche pensarci. A proposito di soldi, c'è il Giubileo e dunque Roma batte cassa. Roma chiede soldi, lo scrivono sia il Messaggero che La Stampa. Fondi per il Giubileo, il Campidoglio in pressing sul tesoro. Questo è il titolo del Messaggero a pagina 4. Domani ci sarà un vertice tra la Giunta e il Governo. Il Comune chiede di allentare il patto di stabilità per sbloccare altri soldi. Per la verità, sulla Stampa c'è anche una cifra più precisa, ed è questa: dal Governo, scrive Alessandro Barbera, sono pronti altri 50 milioni di euro per il Comune di Roma. 30 arriveranno dalla gestione commissariale, Palazzo Chigi invece ne cerca altri 20, e intanto risponde a Marino: non polemizzi, pensi semmai a tornare dalle vacanze. L'opposizione in Campidoglio, scrive Barbera, accusa di voler far cassa. Lui replica che l'obiettivo è migliorare la vita dei cittadini, ma certo la politica capitolina si risveglia dal torpore agostano con la polemica tipica a queste latitudini. Roma ha bisogno del punto duro, del pugno duro contro il traffico? Per l'assessore Esposito certo che sì. Sta di fatto che il comune ora chiede soldi, e forse anche qui è la valetta in questa chiave, la proposta dell'assessore Esposito, quella di ottenere più soldi in vista del giubileo. Chissà se è questo il motivo che ha spinto a chiedere 50 milioni, questa è la cifra richiesta, scritta sulla stampa nero su bianco da parte del Comune di Roma in vista del giubileo. Chissà se questa cifra arriverà, chissà da dove la prenderanno. Staremo a vedere anche questo nei prossimi giorni. Ma poteva mancare, cari ascoltatori, al rientro le nostre classifiche, a cominciare da quella dell'articolo che ci fa più incazzare della giornata. L'articolo, insomma, che ci fa tenere le mani ben strette sul volante se siete alla guida. Eccolo qui. Vince il primo giorno con questo articolo Giampaolo Pioli dal quotidiano Il Giorno, e ci racconta la proposta del candidato repubblicano alle presidenziali. È Chris Christie, è il governatore del New Jersey, che ha ben proposto sulla questione dell'immigrazione clandestina negli Stati Uniti quanto segue. Due punti, udite udite: tracciamo i migranti come pacchi postali. Eccolo qui, pagina 6 del Giorno. Cristi: se verrò eletto presidente, combatterò l'immigrazione clandestina creando un sistema in grado di tracciare gli immigrati come un pacco della FedEx. Questa società può dirci in ogni momento se un pacco si trova su un camion, alla stazione, su un aereo o se è stato consegnato. Noi invece facciamo entrare tante persone col visto e poi ne perdiamo le tracce. Un minuto dopo le perdiamo. Io invece, arrivato alla Casa Bianca, chiamerò il capo della FedEx per lavorare con noi per creare un sistema specifico per rintracciare gli illegali ovunque essi siano. Questa la proposta, più che una proposta, mi sembra una minchiata del candidato repubblicano. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, l'attaccare dell'informazione. Ebbene sì, attaccare, ragazzi, questo vi ha segnato molto, eh. Vi ricordo che potete telefonare, c'è la nostra segreteria telefonica, volete mandare la vostra sigla personalizzata, poi noi la mandiamo in onda, 02 4652 4492. Non ditemi che non avete preso nota del numero, scriveteci una mail 24mattino@radio24.it e noi vi daremo il numero della segreteria dove lasciare i vostri messaggi, e poi nella segreteria telefonica, come sapete, la mandiamo anche in onda con i vostri pensieri. Allora, dicevamo della proposta di questo governatore del New Jersey di tracciare i migranti come pacchi. Non ci siamo ancora arrivati in Italia, ma il tema immigrazione, in realtà in maniera molto ben più seria, purtroppo anche tragica, è affrontato dai giornali praticamente tutta l'estate, è stato così, ma non diminuiscono gli articoli, non diminuiscono le aperture, proprio perché il tema è fortemente in agenda europea, tanto che si parla di un vertice di emergenza sui migranti. Questo titolo del Corriere della Sera, anche se ormai di emergenza non si dovrebbe più parlare, visto che la situazione è abbastanza strutturale in Europa. La notizia certamente che colpisce molti giornali è la proposta di Londra, una proposta shock per certi versi, perché il ministro all'interno, Theresa May, ha proposto al Sunday Times con una lettera che cosa? Beh, ha detto che Schengen, il trattato che prevede la libera circolazione, tra l'altro, nei cittadini europei nell'Europa, venga abolito. L'ha criticato aspramente questo trattato. Un accordo che consente di muoversi liberamente i cittadini dell'Unione Europea, che è la causa della morte di centinaia di persone che scappano dalla Siria per finire nelle grinfie di trafficanti di esseri umani. Così ha scritto nella lettera al ministro dell'Interno. Proprio per questo va abolito. Questa dunque è la proposta inglese: abolire il trattato di Schengen. Perché? Perché poi incentiva i cittadini europei a fare quelle orribili tratte di esseri umani, magari attraverso i tir, attraverso i camion. Abbiamo visto cosa è successo in Austria con 70 persone asfissiate in un tir. E quindi il ministro inglese dice va abolito il trattato di Schengen. Non solo, la proposta addirittura molto dura, scrive Repubblica, spiazzata la Gran Bretagna dalle ultime cifre sui migranti giunti nel proprio paese, il governo Cameron corre ai ripari, chiede un giro di vita ai permessi di ingresso, addirittura proponendo il blocco dell'ingresso dei cittadini dell'Unione Europea che non hanno un lavoro stabile in Inghilterra. Pensate quanti italiani non potrebbero più andare in Inghilterra a partire da domani se passasse questa proposta. Certo, la vicenda dei tir è l'ultima che sta sconvolgendo, anche appunto per gli episodi terribili che sono finiti in tragedia come quello dell'Austria. Ecco perché Repubblica dedica una due pagine al network dei tir, così si arricchiscono gli scafisti via terra. Francesco Viviano e Alessandra Ziniti ne scrivono a pagina 6. Viaggiano in mezzo ai tir carichi di angurie, kiwi, bombole di gas, serramenti metallici, ma viaggiano anche in automobili di improvvisati tassisti, in lussuosi van Mercedes, in Fiat Ducato. È l'ultima tappa di un esodo infinito e che ormai superata la roulette russa delle rotte in mare o attraverso il deserto sembra poca cosa. Dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Serbia, Turchia, Grecia, Ungheria fino ai valichi di frontiera francesi e tedeschi. È un vero e proprio network degli scafisti d'asfalto. Ovviamente, tra virgolette, quello che per portare fino alla meta finale migliaia di migranti sbarcati sulle coste d'Italia ha arruolato negli ultimi mesi centinaia di passeur italiani, greci, turchi, serbi, egiziani, eritrei, tunisini, come Gianluca Giobbe, italiano, di Nuoro, disoccupato e arrestato qualche giorno fa in Germania, dove aveva appena trasportato un'intera famiglia siriana che aveva pagato diverse migliaia di dollari. La moglie di Giobbe lo cercava da una settimana. A lei aveva detto di andare in Germania a cercare lavoro, ma Giobbe era già tenuto d'occhio dalla polizia di Nuoro per i suoi contatti con le organizzazioni di trafficanti. Qualcun altro, come Massimo Greco, trentenne pescatore di Riposto, provincia di Catania, si prestava a fare il doppio servizio col peschereccio, era andato a recuperare da una nave madre egiziana un centinaio di egiziani e siriani e poi a bordo di un tir li aveva portati fino a nord Italia, dove però si è fatto arrestare dalla polizia beccandosi l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Insomma, come vedete, scrive Repubblica, è un fenomeno che riguarda anche moltissimi cittadini, anche purtroppo connazionali, che vedono di lucrare su questo nuovo business. Il ministro dell'Interno Alfano viene intervistato da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, pagina 3. Intanto dice: Schengen non si tocca. È una risposta molto diretta a quello che chiede la Gran Bretagna. Il trattato è una conquista di libertà. Se si ritiene che per vincere la paura bisogna diminuire la libertà, ci troveremo tra qualche anno con paure peggiori, avendo compresso la libertà di circolazione. Tra l'altro, dice Alfano, finalmente in Europa mi sembra prevalgano razionalità e concretezza. Purtroppo ci sono voluti centinaia di morti, non solo nel Mediterraneo, ma anche sulla rotta balcanica e dentro i tir. Posso dire con tristezza che i morti nel Mediterraneo erano stati sufficienti a svegliare l'Europa, ma non a determinare un'azione poderosa sulle frontiere. Ora si comprende che l'Italia è solo luogo di transito e il vero approdo sono i paesi del nord. Alfano attacca anche le critiche che gli sono rivolte quotidianamente dalle regioni del nord, non c'è scritto dalla Lega, ma insomma si intuisce, visto che è la parte politica che più l'attacca. Risponde Alfano dicendo: sono stato aggredito in modo cialtronesco e becero per un anno e mezzo, come se il problema immigrazione mondiale fosse causa del ministro dell'interno italiano. Ora che interviene ancora una volta il Papa e c'è una sessione straordinaria dell'ONU e dell'Unione Europea, vengono coinvolti i ministri di esteri, difesa e trasporti, posso dire che ho resistito forte non solo della buona coscienza, ma anche dell'oggettiva verità dei fatti che solo la malafede di alcuni poteva negare o scaricare addosso a me. così Alfano si difende sul Corriere della Sera. Certo, non aiutano, non aiuta nel tentativo di dialogo di integrazione la notizia terribile di cronaca che arriva da Palagonia in provincia di Catania. Qui una coppia di settantenni, Vincenzo Solano, 68 anni, e la moglie Mercedes Ibáñez, 70 anni, spagnola originaria di Barcellona, sono stati uccisi brutalmente nella loro villa di Palagonia e fermato e considerato quasi certamente dalla polizia autore di questo duplice omicidio. Tra l'altro, scrive Il Giorno, lui sgozzato e lei gettata nuda dal balcone, un cittadino diciottenne della Costa d'Avorio che è in questo momento ospitato dal centro profughi di Mineo. Ucciso in casa, preso profugo del centro di Mineo. È il titolo del Corriere della Sera, Fabrizio Caccia, ma è il titolo più sfumato perché la stampa attacca così: lui sgozzato, lei gettata dal balcone, fermato ivoriano del CARA di Mineo. Questo è il titolo di apertura del Giorno, migranti, orrore a Catania. E anche Il Giornale mette la notizia a pagina 3: a Catania, coppia assassinata, fermato un profugo ivoriano. Scrive Il Corriere, li ha uccisi senza pietà sabato notte per depredarli di un cellulare, un PC portatile e una videocamera. Vincenzo Solano, 68 anni, meccanico in pensione, sgozzato nella stanza da letto. Sua moglie, scaraventata, nuda giù dal balcone. Quindi si è tolto in gran fretta i vestiti intrisi del loro sangue ed è fuggito dalla villetta di Via Palermo con indosso un paio di pantaloni, una maglietta, le stesse ciabatte del signor Vincenzo. È stato fermato in queste condizioni e molto sospettato dell'assassinio, del duplice assassinio, l'ivoriano Mamadou Camara, 18 anni, arrivato a Catania dal mare l'8 giugno scorso. Gli hanno trovato il cellulare, lui dice l'ho trovato sotto un albero per strada, ha provato inutilmente a difendersi. È stato fermato dagli agenti all'ingresso del centro profughi, incuriositi dal pesante borsone che portava con sé. Dentro c'erano il telefonino, il computer, la videocamera e così sono scattati subito gli accertamenti e ora l'accusa per lui è appunto del duplice omicidio. Dicevo, non aiutano. Non aiutano certo queste notizie a distendere gli animi quando si parla di queste tematiche. Ma io sono le 7:42 minuti e trovo e ritrovo un uomo, non solo, ma comunque in testa alla classifica. Salutate la capolista, salutiamo la capolista Mauro Meazza del Sole 24 Ore, ti abbiamo salutato. Buongiorno, buongiorno, chi parla? Sono Alessandro Milan. Alessandro Milan, impossibile, Alessandro Milan è partito settimane e settimane fa. Settimane decisive, tanto che tu eri via, qui si sono fatte grandi cose, caro mio. Hanno abolito le province? No, vabbè, adesso no. Piano con le parole. Però, se leggi il Sole 24 Ore di oggi, sì. Caro Alessandro, sì. Ad esempio, potrai vedere che nell'agenda del rientro spiccano, che ti devo dire, la riforma della scuola, sì. Ma anche l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione è stata conclusa. Tra l'altro ne parliamo anche nelle pagine di norme e tributi, nella parte degli enti locali, perché ci sono delle novità molto importanti. E poi, caro Alessandro, c'è stato tutto un cambio di regime sulle collaborazioni, ne parliamo sempre su norme e tributi. Ma tutto questo è successo mentre io non c'ero. Beh, tu non ci sei stato per un pezzo lunghissimo, quindi lì non so, anche persino io ho occupato indegnamente il tuo studio, figurati un po' come erano disperati di Radio 24. Comunque tu devi adesso riprendere le buone abitudini, sì. Leggere il Sole 24 Ore. Ovvio. Specialmente le pagine di norme e tributi, ti raccomando. Ma oggi puoi anche cominciare la pagina 2-3, così intanto ti prendi nota di due o tre cosutte. C'è una data decisiva. Segnatelo, 30 settembre. Eccolo qua. Lo ricordava anche la collega Rossella Cadeo nel giornale radio. 30 settembre è decisiva per tante cose, ma soprattutto per cose fiscali, perché tra l'altro è attualmente fissata al 30 settembre il termine per la voluntary disclosure, come direbbe Angelino. Ecco. C'è ancora Angelino? Sì, Angelino c'è ancora e sta benissimo adesso. Ecco, allora salutiamo Angelino. La voluntary disclosure al momento ha il termine fissato al 30 settembre, ma al 30 settembre incombono anche su di te, caro Alessandro, sì, le clausole di salvaguardia con possibili aumenti delle accise. Che bello! Ti spieghiamo tutto sul Sole 24 Ore. E poi, cioè, questo 30 settembre già gli italiani lo amano proprio. Penso che sarà una data che ameremo tantissimo. Ah, sì. Vediamo cosa succederà in queste che sono settimane. Dillo tu per favore. Ecco. Oh, molto bene. Se per caso te lo fossi perso, perché lì non so dove stavi, in Costa Rica, dove sei andato? In Costa Rica. Mamma mia. Ma a spese mie, oltretutto? No, a spese mie. Ah, vabbè, allora ahimè, perché attendo ancora un tuo contributo che mi avevi promesso. Puoi andare allora dove ti pare, sei andato per la voluntary disclosure, cioè per rimpatriare i tuoi capitali. No. Dispersi qua e là sul globo, che ho dichiarato sull'ingresso alla dogana per turismo. Quindi. Vabbè, basta celiare perché ti volevo dire, intanto che tu eri via a gozzovigliare, noi abbiamo pubblicato giorno dopo giorno una guida ai grandi temi dell'estate, il lavoro, le pensioni, del rientro, anche non solo dell'estate. Se per caso tu te le fossi perse queste puntate, ti voglio dire che sul sito del Sole 24 Ore c'è un ebook dove le abbiamo raccolte tutte. Ottimo. www.ilsole24ore.com. E poi hai già mostrato l'infodata con tutti i dati delle borse asiatiche che ci hanno fatto disperare. Eccola qua. Mostrala un attimo agli ascoltatori, per favore. Ti dico un'ultimissima cosa per questa mattina che riguarda proprio la clausola di salvaguardia di cui ti parlavo prima. Sai che cosa potrebbe aumentare il 30 settembre? Appure. Le accise sulla benzina. Ecco. E perché te ne parlo proprio ora? Chissà. E perché devo dire la mia parolina magica. È tornata. Caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, il punto G dell'informazione. Allora, eccoci qua. Allora, cari ascoltatori, con le notizie dai giornali, beh, certo, l'occupazione, come dicevamo anche prima con Mauro Meazza, è uno dei temi che giustamente in autunno, anche se non solo in autunno, sono più caldi. Oggi ci sono due pagine interessanti che vi voglio segnalare da Repubblica sui primi sei mesi del Jobs Act, cioè disoccupazione giovanile ancora a quota record, ma crescono i contratti stabili. Valentina Conte fa un po' il punto a distanza di sei mesi dall'introduzione della riforma del lavoro, sei mesi con il nuovo contratto a tutele crescenti, che è il cuore della riforma del lavoro del governo Renzi. Come vanno le cose, si chiede Repubblica. La risposta è questa: non benissimo. Il tasso di disoccupazione dei giovani è al massimo storico col 44,2%, il tasso di occupazione dei giovani è al minimo storico al 14,5% e così anche in generale, giù l'occupazione al 55,8% e sulla disoccupazione generale che ora viaggia al 12,7% dopo aver sfiorato il 13% record a novembre. Demerito del Jobs Act, difficile sostenerlo, scrive Repubblica, con un PIL che si affaccia solo da qualche mese al segno più, stagnando allo 0, consumi, investimenti, produttività, nulla tira, non come dovrebbe per rianimare il lavoro. Nessun demerito dunque, ma neanche rimedio a leggere i dati. E qui c'è un'intervista a chi? A Maurizio Del Conte, che è il padre di fatto della nuova legge, il consigliere giuridico di Renzi, che ha scritto gran parte del Jobs Act. Intervistato da Roberto Mania, dice: per completare la riforma Hartz del mercato del lavoro in Germania furono necessari 3 anni e i risultati si cominciarono a vedere dopo. Anche la nostra è una riforma strutturale e non un intervento spot. Non vedo nel mondo, d'altronde, alcuna legge sul lavoro che di per sé sia o sia stata in grado di produrre occupazione aggiuntiva. Dunque, dice Del Conte, bisognerà vedere nel tempo i risultati. L'obiettivo della riforma è porre le premesse perché il mercato del lavoro funzioni meglio. con una caratteristica: far diventare centrale il contratto di lavoro a tempo indeterminato, un approccio opposto a quello degli ultimi 15 anni. Aggiungo che in ogni caso mancano ancora 4 decreti fondamentali per l'equilibrio del sistema, 2 dei quali riguardano le politiche attive per il lavoro, cioè la semplificazione e l'efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dunque Del Conte, consigliere giuridico di Renzi, dice: bisogna attendere prima che il Jobs Act possa dare dei risultati decisivi sul tema dell'occupazione. Su questo la politica invece su cosa si interroga? Grande novità estiva, la divisione del Partito Democratico. La divisione del Partito Democratico. Renzi, che ieri ha fatto un'intervista al Corriere della Sera, dice: non c'è nessuna divisione, l'alternativa al PD è Matteo Salvini, non è un'altra cosa all'interno del PD, non è a sinistra del PD. Lo stesso Bersani, scrive il Corriere della Sera, dice nelle varie feste dell'unità che bazzica in questi giorni, ieri a Reggio Emilia: la divisione o la scissione mai, mai e poi mai. Lo ripete 3 volte, come racconta Francesco Alberti sul Corriere della Sera, questo Bersani, a scanso di equivoci. Dunque il PD non si divide, dice Bersani stesso, anche se sulla riforma costituzionale c'è un'interessante retroscena di Francesco Bei su Repubblica, che racconta come Renzi potrà avere dei problemi sulle votazioni al Senato. Pagina 13, Grasso, cioè il presidente del Senato, Grasso spiazza Renzi sull'articolo 2, va rivotato, e informa il Quirinale. Francesco Bei racconta: Pietro Grasso ha deciso, dopo aver passato l'estate a consultare costituzionalisti, a studiare i report preparati dagli uffici, si appresta a dare un grosso dispiacere a Renzi, sancendo, perché è nei suoi poteri, l'emendabilità dell'articolo 2 della riforma costituzionale. In sostanza, per chi non è avvezzo a queste cose di politica, significa che la partita sull'elettività dei futuri senatori, che è il cuore dello scontro tra la maggioranza e la minoranza del Partito Democratico, è ancora apertissima. Dopo aver maturato questa decisione, Grasso ora attende di comunicarla direttamente al governo, ma intanto ha già informato in via informale il capo dello Stato. Dunque l'articolo 2, che i renziani credevano di aver messo in sicurezza alla doppia lettura conforme tra Camera e Senato, diventerà terreno di battaglia micidiale in Senato. Vabbè, per chi è avvezzo alla politica ha capito tutto, per chi non è avvezzo alla politica, pazienza, cercheremo di approfondirlo nelle prossime giornate. Vi segnalo qualche notizia di cronaca. Intanto c'è un'intervista al capitano Ultimo. Sapete che Sergio De Caprio, ex comandante del nucleo operativo ecologico, colui che ha arrestato Totò Riina, ma ha anche indagato Belsito, Orsi, Bisignani, ha svelato la P4, da pochi giorni è stato però demansionato, viene intervistato da Emanuela Belcuore sul Fatto Quotidiano, parla un po' della sua carriera, a cominciare dall'arresto di Riina, la fine di una caccia. Quando un uomo finisce la caccia e trova la preda, si sente semplicemente vuoto, perché deve pensare alla caccia successiva. Racconta la sua vita sempre ligio al dovere da carabiniere. Riguardo al demansionamento, dice: rispetto e eseguo, risponde in maniera fortemente decisa ma serena. Comunque interessante questa intervista al capitano Ultimo, così è conosciuto il colonnello Sergio De Caprio dei Carabinieri, che non si mostra mai in volto ma sempre con il celebre passamontagna, intervistato dal Fatto Quotidiano. Che cosa c'è ancora di cronaca da dire? Beh, c'è un'interessante inchiesta del Giornale, mentre siamo in diretta su Periscope. Siamo in diretta su Periscope da questo momento, saluto Lorenzo Nespoli. C'è un'inchiesta sul Giornale molto interessante sul paese dei pirati, sarebbe l'Italia. Cosa vuol dire il paese dei pirati? Beh, purtroppo da dati che sono stati elaborati dall'osservatorio Amici Sostenitori della Polizia Stradale, È vero che diminuiscono nell'ultimo anno gli incidenti stradali, e questa è una buona notizia, ma aumenta il numero di persone che fugge dopo gli incidenti stradali, un più 5,1%, anzi no scusate, più 4,3%. Nel primo semestre del 2015 c'è stato questo aumento di casi di omissione di soccorso, e dice Giordano Biserni, cioè il presidente dell'associazione, è una questione di pene non proporzionate al delitto. In pratica, fuggire in qualche modo è quasi conveniente, fuggire da un incidente e dal luogo dove c'è stato l'incidente, perché chi fugge alla fine la scampa e non ha nessuna pena. Siamo alla carta costa? Sì, siamo in chiusura? L'articolo più inutile scovato sui giornali? È sul Giorno? Walter Veltroni, che non va in Africa! Ma torna a scrivere mezza pagina sul Giorno, torna a scrivere di sport per il Corriere dello Sport. Altro che politica, Walter finisce nel pallone. Ma chi se ne frega? Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Ciao Milan, che te porti lo via fuoco. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sei laureato in tuttologia, sai tutto tu. Eccoci qua, cari ascoltatori, sono le 8:19 minuti, anzi ormai 8:20 minuti. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora sì, sono tornato da oggi, riprende regolarmente 24 mattino, anzi andiamo in diretta fino alle 9:30 per tutto il mese di settembre. E sapete che questa estate la cosa è stata contrassegnata soprattutto come notizia principale, e da questo punto di vista ancora sarà così per giorni, dall'immigrazione, da questi anche drammi che ci sono ogni tanto, ma sarà così non per giorni, per anni, magari non saranno sulle prime pagine dei giornali queste notizie, forse decenni. Pensate che l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni dice che questo scenario ci sarà fino al 2050, cioè fino al 2050 ci saranno persone che, piaccia o no, si sposteranno da luoghi dove si sta peggio per andare in luoghi dove pensano si possa stare meglio. E allora che fare? Allora, fare come la Gran Bretagna? È la nazione, è il paese su tutte le prime pagine dei giornali oggi. In Gran Bretagna non ne possono più e chiedono di abolire il trattato di Schengen, quello sulla libera circolazione dei cittadini europei. Il ministro all'interno inglese May lo chiede anche perché, grazie alla libera circolazione dei cittadini europei, ci sono dei casi di persone europei, cittadini europei, che ammassano le persone sui tir e le spostano dal sud al nord Europa. E la tragedia di quello che è successo in Austria con 71 morti asfissiati in un camion è sotto gli occhi di tutti. Allora, chiudere tutto come fa la Gran Bretagna? Loro sono anche un'isola, forse è un po' più facile isolarsi, scusate il gioco di parole così. Alfano oggi sul Corriere della Sera replica in qualche modo a dire: il trattato di Schengen non si tocca assolutamente. Renzi, il presidente del Consiglio, qualche giorno fa parlava così. Rispetto al tema dell'immigrazione, noi non cederemo mai a un messaggio che vuole far diventare l'Italia una terra della paura. Il provincialismo della paura non vincerà. Noi possiamo anche perdere 3 voti, ma prima salviamo le vite umane e poi ci preoccupiamo di come riuscire a dare un futuro a quella gente. Non è buonismo, è umanità. Sono secoli di civiltà ai quali non rinuncio per 3 voti. Così Renzi, lo stesso Renzi al Corriere della Sera ieri ha definito l'anti-PD o l'anti-Renzi Matteo Salvini, segretario della Lega, che saluto. Buongiorno Salvini. Buongiorno, ben ritrovato e ben ritrovati. Grazie, anche a lei. Lei farebbe come la Gran Bretagna? Mi sembra di sì, visto che lei ha già detto che andrebbe sospeso. Ma io farei come il resto del mondo, come l'Australia, come il Canada, come gli Stati Uniti, come la Svizzera, come la Francia, come l'Austria. Il problema non è salvare vite umane. Renzi sta aprendo un cimitero nel Mar Mediterraneo. Per prendere tre applausi e fingersi buono, sta aprendo delle fosse comuni sul fondo del Mar Mediterraneo. Senza poi contare i fatti di cronaca italiana, adesso vediamo se sarà colpevole o meno, però sì. Uno che sarebbe un presunto profugo nel centro immigrati di Catania, che è dentro, accusato di un duplice omicidio, sì, a Palagonia, avrebbe ucciso una coppia. Qua non si tratta di fare i recinti, i fili spinati, i ponti levatoi, si tratta di regolare, perché altrimenti da qui al 2050, come sentivo, ci sarà l'anarchia. Ma come si fa a regolare un fenomeno che, voglio dire... riflessione numero uno. Non è un fenomeno, è un fenomeno nuovo, con quello che sta succedendo. Ma nella storia del mondo le migrazioni e gli spostamenti di popoli ci sono sempre stati. Quando sono stati regolati sono stati un fattore positivo. Quando non sono stati regolati hanno portato alla guerra e al caos. Riflessione numero uno. Il tasso di natalità in molte zone africane è 6 volte... superiore a quello dell'Italia e dell'Europa. Sì. Quindi bisogna intervenire da questo punto di vista, perché un continente che oggi ha 1.200.000.000 di persone, da qui al 2050 avrà più del doppio di questa popolazione. Quindi non ci stiamo tutti su questa terra, e penso soprattutto alle potenze occidentali e anche alla Chiesa, che da quelle parti inizierà a ragionare di una crescita sostenibile, di un controllo della natalità, penso che possa essere cosa intelligente. Secondo, andare là, intervenire là con dei centri di assistenza e di identificazione. Sì. A questo arriveranno le istituzioni internazionali, però non so fra quante migliaia di morti. Bisogna andare là. Ma perché lei accusa in Egitto, in Tunisia, ma perché in lei accusa Renzi addirittura di avere aperto una fossa comune, che voglio dire sono frasi molto forti, nel senso che perché più invitiamo a partire queste persone più ne muoiono. Quindi non cosa dovremmo dire? Qui dovremmo fare come la Gran Bretagna. Lei appoggia questa idea della Gran Bretagna? L'Australia, che è un'isola evidentemente, ma era anche lei meta di sbarchi fino all'anno scorso, con un programma che si chiama No Way, istituito dal governo australiano, che non mi sembra sia guidato da leghisti, razzisti, nazisti o fascisti, ha semplicemente detto: chi vuole arrivare qua deve dimostrarmi di avere i documenti a posto e le carte in regola, altrimenti se arrivi su un barcone non metti piede sul mio ma suolo. Ma non crede che sia una situazione differente? Cioè l'Australia è una grande isola, ma ben distante dalle coste asiatiche, cioè noi qua siamo in mezzo, vicino alla Libia, la Libia, la Siria. La Spagna ha delle enclave in Africa, ma le difende con le armi, perché è una questione di buon senso. Quanti sono, lo dico agli ascoltatori, quelli che vengono riconosciuti come profughi in fuga dalla guerra, di quelli che noi stiamo ospitando in albergo questa mattina? Meno del 30%, il che vuol dire che un paese normale aiuterebbe con tutti i crismi questo meno di 30% di richiedenti asilo, ma il restante, e sono decine e decine di migliaia di persone, dovrebbe essere riconosciuto subito come non in fuga dalla sua guerra ed espulso. Lei però tocca un problema. Lei tocca un problema che io spesso qui ho denunciato, cioè se uno Stato esamina una domanda di uno che richiede di essere rifugiato o profugo in oltre un anno, il problema è lui che vuole diventare profugo o rifugiato, o è il problema di uno Stato, lasci stare non di un governo perché è da sempre così, di uno Stato che non è in grado sono di assolutamente rispondere. D'accordo. E allora quello vedi che il problema non è l'immigrato, il problema non è l'immigrato. Ho capito, l'immigrato fa quello, il clandestino fa quello che lo Stato gli permette, quindi il clandestino fa il furbetto e lo Stato gli permette di fare il furbetto. Invece di avere 40 commissioni prefettizie che giudicano chi è profugo e chi non è profugo, quel chiacchierone di Alfano che ci fa fare figure di fango in giro per il mondo, perché non assume altre 100, 200, 300 persone e moltiplica, quintuplica queste commissioni, come fanno gli altri paesi europei? E io ti individuo come profugo non in un anno e mezzo. Pensi che invece mese, lei lo dice chiacchierone, Alfano dice: sono stato vittima di beceri attacchi per un anno, adesso a capire che il problema è europeo, come se fossi stato. Ma secondo lei il problema dell'immigrazione è il ministro dell'interno Alfano, obiettivamente? No, questa è una piccola pedina, è il posto sbagliato, è l'uomo sbagliato al posto sbagliato, non è capace. Non gliene faccio una colpa, non è capace. sta difendendo la sua poltrona con le unghie e con i denti, se ne è reso conto benissimo anche Renzi, lo manda via, salta al governo. Però chiedo a un uomo delle forze dell'ordine qualunque che ci stia ascoltando se si sente rappresentato, difeso e protetto da un ministro dell'interno inetto come questo. Allora lei mi faccia capire che cosa propone, perché Salvini l'ha attaccato tanto, ha criticato, ha avuto molti scontri con alcuni esponenti della Chiesa. Le piacerà allora la proposta del Vescovo di Torino che dice ogni parrocchia accolga 5 immigrati? Eh certo, questa perché sì, d'altronde questa di sì, italiani sotto la soglia di povertà ce ne sono solo 9 milioni, no? Quindi dovrebbero accogliere le parrocchie di Torino, accolgano i vabbè, ma no, se non le va bene neanche italiani. Se non le va bene neanche l'invito di accoglierli, cosa dovrebbe dire un vescovo? Sparategli, mandateli via. Ma scegliamo un paese africano per mandarci gli italiani. A questo punto, che qualche vescovo e qualche ministro, visto che gli italiani sono l'ultima delle preoccupazioni di qualche governante, mandiamo gli italiani, andiamo noi in Africa. So che diamo fastidio, se per caso ci permettiamo di dire che nell'albergo Stella 3 Stelle di Bormio non è normale che da 5 mesi ci siano 50 immigrati clandestini a spasso a cui paghiamo colazione, pranzo e cena, visto che siamo noi cattivi, mandate noi in Africa, così almeno avete tutto il paese da mettere a disposizione. Però lei, Salvini, è d'accordo che se uno ha diritto ad essere considerato profugo venga considerato profugo. Ci mancherebbe altro. Allora, nell'attesa cosa facciamo? Nell'attesa cosa facciamo? Dobbiamo dargli da mangiare, no? Ripeto, un conto è metterci un mese a riconoscere se uno fugge dalla guerra, un conto è metterci un anno e mezzo. E che colpa ne ha l'albergatore che nel frattempo li... L'albergatore ci mangia e rovina quelli che gli stanno di fianco. Perché se un albergatore per fare il suo mestiere ha bisogno degli sbarchi a Lampedusa, vuol dire che non è capace di fare il suo mestiere, quell'albergo deve fallire domani mattina, perché danneggia tutti gli altri imprenditori normali che vorrebbero che l'Italia crescesse sul turismo e non sull'immigrazione clandestina. Mi dica le due cose concrete che lei proporrebbe, detto che secondo me è sbagliato tutti coloro che dicono ma la Lega è stata è vero che è stata al governo, ma era una situazione diversa. No, ma è una situazione diversa. 4 anni fa i numeri del genere non li abbiamo mai subiti. Nel momento peggiore della guerra in Libia, dei bombardamenti, arrivarono meno di un terzo. Sì, però non c'era la Siria, non c'era l'ISIS, c'erano situazioni. Per me i paragoni sono sempre difficili da fare. Mi dica adesso cosa farebbe lei in questa situazione? Aiutarle a casa loro, cosa vuol dire? Molto praticamente, quintuplicare il numero di commissioni che esaminano le domande di asilo politico. Sì. Così invece di avere, stamattina noi stiamo pagando in albergo più di 90.000 persone. Di queste 90.000 persone, alla fine dell'iter, stando alle statistiche del Ministero, più di 70.000 risulteranno immigrate clandestine. Quindi queste 70.000 vanno messe sul primo aereo e rispedite a casa domani mattina, perché un conto è ospitarne 20.000, un conto è ospitarne 90.000. Numero uno. Numero due, non vado chiedendo per favore a Bruxelles, non è che ci date una mano, faccio 18 vertici, faccio un colpo di telefono alla Merkel. Dalla strage di Lampedusa è passato più di un anno e mezzo. Sì. Io domani mattina, se sono un presidente del Consiglio con le palle, visto che l'Italia all'Europa dà 16 miliardi di euro in contanti ogni anno, inizio a non darteli. Non dare più soldi. Perché io devo dare dei soldi all'Europa che se ne frega dell'immigrazione? Mi massacra l'agricoltura, mi massacra la pesca, mi massacra il commercio. Ma adesso non è più così, visto che i morti sono arrivati anche purtroppo in Austria, nel cuore dell'Europa. Ho capito, dobbiamo aspettare altri 1500 morti prima che qualcuno dia un cenno di vita. Ma lo stesso discorso vale per altri organismi internazionali che sono il tempio dell'inutilità. L'ONU che ha mandato caschi blu in mezzo mondo, l'Italia questa mattina mentre noi siamo in diretta ha dei militari impegnati in più di 30 missioni in giro per il mondo. È possibile che col casino che c'è in Libia nessuno si stia preoccupando di quello che succede in Libia? Questo vorrebbe dire però andare militarmente ancora, già l'abbiamo fatto. Comunque lei le due cose concrete che dice: aumentare le commissioni e non dare più soldi all'Europa. E farei un colpo di telefono alla Marina Militare e alla Guardia Costiera invitandoli, come la legge del mare, come l'umanità ovviamente prevede, a soccorrere e salvare tutti, ma di tenerli a bordo e non farli sbarcare. E che facciamo? Le navi con 5.000 quello che fanno altri. E dopo un po' le navi si riempiono. Quante navi inutilizzate ci sono in porto? Ho capito, ma dopo un po' le navi quando sono riempite arrivano altri, che facciamo? E io ti identifico a bordo. Tu mi dici a bordo chi sei e da dove vieni. E se no? A mare. No, che amare, no? Ti no, riporto da dove sei partito. Ah, no, amare, per carità di Dio, amare, amare ci, ci pensano già gli scafisti contro cui non stiamo facendo assolutamente niente. I respingimenti, insomma, i respingimenti. Assolutamente. Mi faccio fare tre domande di politica, Salvini, anche se politica anche questa. Davvero lei vuol bloccare l'Italia? Sa che Renzi ieri al Corriere della Sera no, ha detto... voglio liberarla. No, però L'Italia ha detto è questo... bloccata oggi. L'Italia oggi è bloccata, voglio liberarla da alcuni vincoli. 6, 7, 8 novembre, noi non vogliamo scimmiottare la CGIL, che ogni tanto va in piazza a far casino, a far vedere sì. che esiste. Ci rivolgeremo al popolo che produce, ai partigiani, ai, scusate il lapsus CGIL partigiani, agli artigiani, sì, sì. ai commercianti, alle partite IVA, ai liberi professionisti, ai taxisti. Ma facendo cosa? Cioè scendere in piazza, che è un po' bloccare l'Italia. Organizzeremo tre giorni per dimostrare che l'Italia vuole tornare a lavorare normalmente. Quindi ci saranno tanti modi per dimostrarlo anche lavorando, consumando solo prodotti italiani. Avremo azioni nei confronti delle banche, dell'Agenzia delle Entrate, delle prefetture, avremo un colore distintivo perché in quei tre giorni si mi faccia si capire che capire. Azioni, mi faccia capire qualcosa, cioè un'azione contro l'Agenzia delle Entrate? Non mi faccia anticipare tutto, vabbè, ma una cosa, cioè, stiamo lavorando contro una manifestazione. I commercialisti, no, non solo manifestazione. C'è modo e modo per danneggiare qualcuno, secondo noi sta danneggiando tipo l'Italia. Tipo non pagate le tasse per tre giorni, cioè le imprese, invitate le imprese a non pagare le tasse. No. Ma guardi, ci sono chi ci ascolta lo sa, ci sono tanti anticipi. L'Italia è un paese che è riuscito a inventarsi degli anticipi fiscali superiori all'ammontare complessivo della tassa che uno allora deve pagare. Allora vede che non siamo distanti, cioè inviterete qualcuno a non pagare qualcosa allo Stato. O a pagarla dopo. A pagarla dopo. Visto che lo Stato paga dopo i suoi fornitori. Ed è il primo evasore fiscale, è il primo usuraio. Quindi non sono tre giorni di blocco perché la gente non ha voglia, sono tre giorni di voglia di liberarsi. E Renzi ha paura. Però non ho capito lei cosa vuol fare con Berlusconi. Il ticket, lei farebbe il ticket con Berlusconi, sì, l'ha proposto. Ma guardi, io a Forza Italia, siccome dicono Salvini vuole fare tutto da solo, no, ma figurati, io sento una persona media. Normale, anzi ci sono tante persone meglio di me. In questo momento sento di avere sostegno, la fiducia, l'appoggio di tanti italiani e sono dispostissimo anche a farmi da parte, a non fare da solo, a farmi dare una mano, dipende. Forza Italia ci sta, benvenuta, bisogna vedere cosa vuole fare Forza Italia, perché c'è un pezzo di Forza Italia che vorrebbe sostenere Renzi, c'è un pezzo di Forza Italia che dice non si tocca questa Europa, non si tocca questo euro, non si tocca i dati. Ragazzi, mettetevi d'accordo, dice. Ma quando lo vedrà Berlusconi? C'è già una data? No, no, non c'è una data. Volevo vedere come cominciava il campionato il Milan. Vabbè, così almeno una. Così. Però dicono che Berlusconi. Meglio della Juve sicuramente. Beh, vabbè, ci vuole poco. Dicono che Berlusconi preferisca però Maroni e Zaia a lei. Un Maroni, uno più esperto, insomma. Ma per carità di Dio, sono ben contento che in Lega ci siano tante persone che potrebbero fare meglio di Renzi in questo momento. A me interessa che l'Italia riparta, cosa che non sta succedendo con lo zero virgola di Renzi, perché se in due pagine intervista al Corrierone della Sera, peraltro abbastanza inginocchiata come intervista, mi permetto di dire, si esalta per questa ripartenza dello zero virgola e non parla di legge Fornero, non parla di studi di settore, non parla di agricoltura, non parla di partite IVA. E ragazzi, questo non ha capito che cosa vuole fare. Ma è arrivato, scusate, ma è normale che sia arrivato il premier israeliano Netanyahu a dire che paghiamo in visita tante all'Expo, ha disegnato sul retro di un tovagliolo a fine cena il fatto che in Italia ci sono troppe tasse e che lui le ha ridotte al 25%. Invece di scannarci su altro, facciamo un bel confronto su Radio 24, che è la radio del principale quotidiano economico italiano, sull'aliquota fiscale unica, sulla flat tax. Io, Renzi e Netanyahu. Vediamo che cosa viene fuori. Provo a organizzarla. Non sarà facilissimo, ma prometto che proviamo. Ma anche basta anche Renzi e Netanyahu. Ah, va bene. Così almeno vediamo chi dei due è serio. Va bene. Intanto io la ringrazio, Salvini. Buona giornata. Grazie a voi. Matteo Salvini, segretario della Lega. Noi dopo la pubblicità mandate le vostre domande, chiamateci anche se volete, c'è il numero verde, non lo l'ho detto, ma ovviamente 800 24 00 24, se volete parlare di immigrazione, ma se volete parlare di tasse, noi andremo avanti dalle 9 alle 9.30, parleremo anche di tasse, IMU, ICI, l'ICI che la tolgono, l'ICI non si chiama più ICI, la TASI, l'IMU, ma parleremo anche di una tassa forse in arrivo a Roma tra 3 minuti con l'assessore al Comune di Roma, Stefano Esposito, assessore alla mobilità e trasporti per la precisione. Vuole aumentare a 1000 euro, un aumento del 500%, da 200 a 1000 euro il ticket per gli autobus che entrano a Roma. Oh, lì si fanno la crana vera, con 1000 euro ad autobus, però sono tutti abbastanza incazzati. Tra poco. E allora sono le 8:40, eccoci qui dopo aver avuto Matteo Salvini, come dire, dalle 9 alle 9.30 parleremo di tasse per l'appunto, no? Cioè, credete al fatto che Renzi dice toglierò le tasse sulla casa, ma invece adesso qui parliamo di una tassa, un ticket, chiamatelo come volete. Insomma, c'è un assessore, l'assessore al Comune di Roma, assessore da poco, da un mesetto circa. Si tratta di Stefano Esposito, che è anche senatore, che saluto. Buongiorno Stefano Esposito e benvenuto, ben trovato. Buongiorno a voi. Assessore Buongiorno. Alla mobilità e trasporti del Comune di Roma, lei ha già letto i giornali oggi? Sì, li ho guardati. Ha fatto arrabbiare già qualcuno. Ma lei l'aveva detto, andrò in una poltrona com'è, con la ghigliottina a 2 centimetri dal collo? Più o meno una roba. Sì, è esattamente la... l'immagine che ho reso. Ecco, che ha reso. Perché gestire, capite, la mobilità e i trasporti a Roma, molti ci stanno ascoltando, magari in coda dal grande raccordo anulare, anche se la Roma ha vinto e quindi metà di Roma sarà contenta. Chissà come... Io sono triste. Lei è pure juventino, le ha proprio tutte. Le ho proprio tutte per Roma. Stefano Esposito ha proposto di aumentare a 1000 euro il ticket per gli autobus turistici che entrano al centro di Roma. Attualmente quant'è? 200 euro? 200 euro, sì, 200 con un abbonamento annuale di 2800. Insomma, è un bel incentivo ad entrare in centro, ad attraversare e congestionare una già difficile mobilità in quell'area, sì. e caricare turisti e pellegrini proprio sulla soglia di qualunque monumento. Beh, intanto, visto che Roma cerca soldi per il Giubileo, lei ne ha trovato uno facile, no? Aumentare... Ma no, ma guardi, in realtà posso smentire questa idea. L'idea dei 1000 euro in realtà è un incentivo più che un'idea di far cassa. Io le confesso che ero partito con l'idea di vietarlo completamente il centro ai bus turistici. Poi, in un confronto, io sono abituato così, perché dico sempre che solo la categoria dei cretini ritiene di avere idee immodificabili, mi hanno convinto che era meglio una forma pesante di disincentivo. Quindi a tutti quelli che parlano di voler far cassa o di aumentare, di voler prendere soldi, rispondo: l'obiettivo è disincentivare l'uso della gomma e di disincentivarlo soprattutto nel centro storico di Roma, perché poi sono gli stessi, Milan, che urlano sul degrado dei monumenti di Roma causati dal traffico, dallo smog, dalle vibrazioni. Lei dice che questa mentalità gommarola vogliamo toglierla. Esatto. Però... io sono un cultore del ferro e penso che per Roma ci sia bisogno di una cura ricostituente di ferro. Sì, del treno. E si sa che anche sulla TAV lei qualche problema ce l'ha per difendere la TAV. Però... Esposito, sa che ci sono proteste di associazioni di categoria, di operatori turistici che vogliono bloccare con 1000 autobus, credo, il Campidoglio a protestare. Vede che in Italia appena si tocca qualcosa. In Italia, appena metti le mani in sistemi consolidati, ovviamente apri la protesta a chiunque. Poi c'è questa idea, ormai adesso cos'è, è di moda, fa moda Salvini, tutti vogliono bloccare qualcosa. Io, per quanto mi riguarda, l'ho detto e lo ripeto, questa è una misura peraltro che tutti i romani con i quali ho parlato benedicono, perché hanno chiarito cosa succede in quell'area centrale molto ampia, peraltro già solo il mercoledì, quando ci sono le udienze di Papa Francesco, noi abbiamo uno standard di circa 90.000 autobus durante le stagioni normali. Per il Giubileo ne aspettiamo dai 170.000 ai 200.000. Se qualcuno pensa che io faccia l'assessore dei trasporti del Comune di Roma senza mettere mano a questa situazione, sì. Sbaglia. Però senta, altro mettere male la situazione, un conto uno dice c'è un evento straordinario, mi organizzo, un altro conto è disincentivo e me piazzo 1.000 euro così la gente, perché poi su chi crede che ricadranno questi costi? Sui turisti, perché l'operatore turistico farà pagare quello che sta a bordo, no? Guardi, ma molto semplicemente io credo che gli operatori turistici faranno la scelta che io auspico, perché il mio compito non è smettere i 1.000 euro e fregarmene, cioè, il mio compito è quello di offrire Le condizioni e gli stalli, i cosiddetti parcheggi per i bus fuori dall'area centrale, sì. Così come stiamo facendo. Quest'oggi avrò la bozza di delibera, mercoledì la porterò in consultazione nella giunta che abbiamo, uh-huh. Anzi giovedì la giunta, chiedo scusa, stiamo predisponendo dei parcheggi che saranno tutti immediatamente nelle vicinanze di treni o delle metropolitane. Quindi uno arriva lì, prende il treno, arriva lì, scende, avrà anche un e lì non paga, ovviamente ci sarà il costo attuale, il costo di 200, che noi abbiamo una situazione incredibile, cioè costa meno andare in centro che fermarsi in periferia. Ma senta un po', perché lei è uno un po' rivoluzionario, non è che vorrebbe mettere una sorta di sa che là c'è l'area C a Milano, per esempio, far pagare tutti per entrare anche con la macchina? Guardi, l'ho detto e lo ripeto, purtroppo non abbiamo le condizioni, non abbiamo un sistema di mobilità e di trasporti tale da poter fare l'operazione che avviene a Milano, ma anche a Londra, anche sul traffico privato. Siccome io non passo il mio tempo a con l'idea che devo taglieggiare né torturare, in questo momento non si può. Non abbiamo questa condizione. Auspico e mi piacerebbe arrivare al 2018 dicendo che abbiamo finalmente un sistema di trasporto urbano, mm-hmm. pubblico talmente efficiente che ci possiamo permettere il lusso di dire adesso il traffico privato, chi vuole venire in centro, come a Londra, come a Parigi. Quindi lei dice che con un servizio pubblico efficiente sarebbe giusto far pagare i romani. Assolutamente sì, ma anche perché, guardi, mira, sai cos'è? Da quando sono arrivato vengo riempito di messaggi, sì. Mail, Twitter, che mi spiegano che il mio compito è quello di far di Roma una grande capitale europea. E quando lo fai poi ti dicono che ti bloccano la città e gli interessi consolidati. Non è facile. Però assessore, facciamo così: devo andare a dare le informazioni sul traffico per l'appunto. Poi le vorrò presentare anche un ospite. Tra poco parliamo anche un attimo di Roma, mafia capitale. Vorrei capire da lei se ha sentito Marino, se è disperso nelle immersioni. Tra poco. Mattino. Allora, assessore Esposito, intanto come si sta commissariati con il tutor Gabrielli lì al Comune di Roma? Tanto mi dirà che non è così. Ma l'ho detto anche ieri, io non ho nessun commissariamento, poi capisco che giornalisticamente, avendo per settimane costruito questa tesi, non si possa fare diversamente. Comunque io in compagnia di Gabrielli, di Cantone, e se ci fosse anche qualche... anche la Guardia di Finanza, la Polizia e i Carabinieri, ci sto non bene, benissimo. Abbiamo talmente bisogno, diciamo, di fare di non sbagliare nessun colpo, che più gente dà una mano e controlla, io più sono contento. Allora, io le voglio presentare, perché di Mafia Capitale si è parlato molto, un ospite, Massimiliano Di Lullo. Buongiorno e benvenuto, Di Lullo. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Lei è proprietario di Sinergia Attiva SRL, ha inventato l'applicazione Mafia Capitale. Parliamoci, è un videogioco per smartphone. È un videogioco. Che è scaricabile, 0,99 centesimi, quindi poco meno di un euro, dai, arrotondiamo, un euro. Un euro. È un gioco stile, si legge nell'applicazione, stile battaglia navale, in cui si può sfidare il computer oppure giocare con un amico. Si gioca a Mafia Capitale. Ma che gioco è Mafia Capitale? Mi scusi, Di Lullo. Mafia Capitale, appunto, come dice la descrizione, è un gioco intanto di fantasia. Sì. E ognuno praticamente può identificarlo con la propria città, perché non necessariamente... Mica solo Roma, ecco. Anche se richiama i fatti e le vicende che si stanno... Ma che deve fare uno in questo gioco, in pratica? Diciamo che deve, invece di nascondere i sottomarini, le navi o quant'altro, come nella battaglia navale tradizionale, sì? Nascondere ovviamente dei soldi provenienti da attività illecite. Cioè uno gioca a fare il criminale? Gioca a fare il criminale e gioca in modo che il computer, l'avversario, non trovino questi. Ho capito, ma di Lullo, voglio dire, per carità, è un gioco, si può giocare su tutto. È un gioco. Però lei mi capisce, ci sono state polemiche, ma fare un gioco su Mafia Capitale, cioè l'abilità del giocatore è quella di nascondere mazzette, nascondere soldi da proventi illeciti. Il gioco non vuole misurare l'abilità del giocatore, il gioco vuole richiamare, vuole attirare l'attenzione su quello che sta succedendo in questo momento a Roma, nel senso chi a Roma non ci vive magari tante volte non neanche le sente, quindi diciamo l'obiettivo del gioco è quello di far interessare oppure di scatenare a livello di social una discussione, quindi Vabbè, anche di vendere, immagino, l'ha fatta anche per vendere, no? Per guadagnarci sopra. No, diciamo che l'obiettivo principale non è quello di vendere, perché altrimenti i canali sarebbero stati diversi, nel senso sarebbe stata creata una pagina Facebook e pubblicizzata quella pagina Facebook, quindi l'attività di vendita prevede, cioè anzi, la prerogativa di vendita prevede un'attività diversa nello sviluppo e nella pubblicità dell'applicazione, quindi gioco. Quindi quello che si è voluto fare è l'obiettivo. Anche una denuncia, suscitare un dibattito. Beh, dibattito un po' c'è stato sui giornali, lei è finito, qua l'abbiamo chiamata, vede. Sì, quello era aspettato, sinceramente, perché lo dico sinceramente, il fatto di finire sui giornali è stato un pochettino aspettato, perché appunto si puntava un attimino ai social network. Vabbè, ho capito, però non le sarà dispiaciuto, è come pubblicità, no, e comunque il fatto, se lei crea un gioco, un'applicazione per smartphone chiamata Mafia Capitale, in cui l'obiettivo stile battaglia navale di chi gioca è quello di nascondere i capitali in maniera veramente giocosa, uso su questa parola. Stefano Esposito, che dobbiamo dire, siete finiti anche non voi, nel senso, ma Roma, questa vicenda finisce anche in una in un'applicazione per smartphone a giocarci. Evviva! D'altra parte non si è parlato d'altro per le ultime settimane. Io devo dire, osservo sempre con una certa ammirazione la fantasia e la creatività. Poi certamente ci sono tutti i limiti che parzialmente diceva anche lei, Mira, cioè, si rischia di dare l'idea che questo sia un paese dove prevalgono i furbi. Purtroppo, sa cosa le dico? È che un po' questa mentalità c'è, ma non a Roma, in Italia. C'è l'idea che il problema è fregare il prossimo, no? E essere più furbo degli altri, non pagare le tasse, se è possibile evadere il biglietto, insomma. Per cui certo, forse sul piano strettamente sociologico non è il massimo, però posso dire la verità, io lo osservo con simpatia dal punto di vista dello sport, della creatività. Mettiamola così. Senta, Marino, lei l'ha sentito? Quando torna? Marino rientrerà certamente il 3, visto che c'è una giunta convocata. Quindi il 2, venendo dall'America. Rientra il 2, non l'ho sentito, l'ho salutato il 14 di agosto, quando è partito, l'ultimo giorno di lavoro. Vedremo come sta quando rientra. Fatemi sentire Massimo da Roma, che poi lancio anche la segreteria. Massimo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Senta, io sono un imprenditore di un'azienda di bus turistici in Roma. E che ne pensa di quello che ci propone Sposo? Ecco, diciamo, naturalmente vorrei porre delle domande all'assessore per sapere se diciamo le nostre idee sono tutte sbagliate, se possiamo suggerire qualche cosa di buono. Allora, la prima è questa. Dal 2000, quando ci fu l'altro giubileo, a Roma sono cambiati molteplici piani bus per la regolamentazione del traffico dei turisti. Ogni anno o ogni 2 anni veniva fatto un piano bus. L'ultimo è recentissimo. Possibile che tutti questi piani bus, faccio questa domanda, sono stati tutti inefficaci? Seconda cosa. Io ho l'impressione, naturalmente solo l'impressione, che anche qui andiamo a scadere nel problema dei soldi e della politica. Cioè, ricordiamoci che un autobus trasporta 50 persone. E infatti. Per meglio che 50 persone vadano con un mezzo che inquina infinitamente meno di 50 vetture. No, lui vuole il treno però, l'assessore. Meglio ancora.

24 mattino. Allora, questa è 24 mattino, ebbene sì, perché fino a tutto settembre, tutto il mese di settembre andremo in onda fino alle 9.30. Ben ritrovati allora ad Alessandro Milan. Parliamo di tasse, tasse, tasse, perché Renzi, sapete, ha comunicato già da qualche tempo che vuole abbassare le tasse. Per la verità, ieri al Corriere della Sera ha dichiarato: io le tasse le ho già abbassate sul serio. E si è riferito alla vicenda degli 80 euro soprattutto, no? Però adesso, in questo che viene definito storytelling, cioè il racconto positivo dell'Italia che ce la fa, Renzi dice: abbasseremo le tasse. Per quel che riguarda l'anno prossimo, azzeramento di Tasi e IMU, poi l'IRES per le aziende del 2017 e l'IRPEF nel 2018. Oh, c'è da dire che io, quando l'ho annunciato, ho dichiarato: quando uno un po' magari in difficoltà, un politico, cosa fai? Annunci un bel taglio di tasse. Però adesso resterà da vedere se riuscirà a farlo. Voi ci credete, cari italiani? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Beh, c'è da dire che i giornali hanno parlato di prudenza del ministro dell'economia. Quando si parla di prudenza nel gergo, qualcuno ha parlato anche di gelo del ministro dell'economia Padoan su questa proposta di Renzi, ma sentiamolo Padoan. Le tasse che si abbattono devono essere fatte in modo tale da convincere che questo è un fatto permanente. Ecco perché le tasse si devono abbattere abbassando le spese, perché le tasse in gran parte servono a finanziare più spese. Se l'esigenza di finanziamento delle spese diminuisce, allora c'è uno spazio per una riduzione credibile e permanente delle tasse. Quindi la riduzione deve essere permanente, e le spese, a proposito di spesa pubblica, di spending review, ma c'è questo piano? Non lo so, chiediamo tutto al responsabile economico del PD, Filippo Taddei, professore universitario. Buongiorno professor Taddei, come sta? Buongiorno, buongiorno a lei e radioascoltatori. Allora, Renzi che dice ho tagliato le tasse, ma se è dovuto venire il premier Netanyahu, che all'amministratore delegato dell'Expo gli ha chiesto quanto paghi di tasse, e Sala gli ha risposto il 50%, e Netanyahu gli ha risposto what? 50%? What? Le avete tagliate, dice Renzi, le tasse? Sì, le sono tagliate, guardi. Adesso io non voglio ritornare sul dibattito che c'è stato già qualche mese fa, però bisogna sempre purtroppo guardare le statistiche, che sono molto più implacabili delle opinioni. C'è questa discussione sugli 80 euro, come lei li vuole contabilizzare. Da un punto di vista di contabilità nazionale, gli 80 euro stati contati per il 2014 come una spesa aggiuntiva. Ora, io penso che qualunque italiano che abbia ricevuto in busta paga quella riduzione delle tasse, questo aumento della detrazione dal lavoro dipendente, che è quello che tecnicamente sono gli 80 euro, cioè una riduzione delle tasse sul lavoro, sì, difficilmente abbia visto in quegli 80 euro che gli sono stati corrisposti in più in virtù del suo lavoro un aumento di spesa pubblica, quanto un aumento invece della restituzione fiscale, cioè della riduzione delle tasse dovute da chi lavora, e quindi meno tasse per chi lavora. Se lei questo fa, cioè prende quella spesa degli 80 euro e la mette in riduzione delle tasse, scopre che nel 2014, per la prima volta negli ultimi 5 anni, la pressione fiscale complessiva è calata di qualche punto di decimale, non sì, numeri sì, astronomici. Sì. Non dubbio, quello però, che vorrebbe Netanyahu o gli italiani, ecco. Non però, quello diciamo, che vorrebbe, senza dubbio, però sa, come posso dire, si può dire non avete fatto abbastanza, e infatti si dice faremo di più. Però non si può dire non avete fatto nulla, non si può dire questo governo non ha credibilità nella riduzione delle tasse, perché, mettiamola così, se questo governo non ha credibilità nella riduzione delle tasse, questa mancanza di credibilità è la minore, cioè questo è il governo più credibile nella promessa di riduzione delle tasse rispetto a tutti gli altri che l'hanno preceduto. Ah, su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Però, professor Taddei, mi faccia capire, è davvero dobbiamo credere, perché è un atto di fede fino a questo momento che dobbiamo fare al Presidente del Consiglio che dice azzeriamo IMU e Tasi, perché dovremmo crederci? Perché poi se si perdono 3 miliardi e mezzo, credo, il conto da lì, bisogna poi recuperarli da qualche parte. In realtà la riduzione fiscale è più di questo, perché sono 3 miliardi e mezzo, sono la Tasi, l'IMU sulla prima casa, sì, ma c'è una parte fondamentale e piuttosto importante che riguarda l'IMU sui terreni agricoli e l'IMU sui cosiddetti imbullonati. Però questo, giusto, sono cose che magari i suoi radioascoltatori conoscono bene, ma in generale sono tasse abbastanza incomprensibili, sì, nel panorama internazionale. Cioè noi quella sugli imbullonati soprattutto. Mettiamo una patrimoniale su un capannone in che acquisisce valore perché? Perché dentro tu ci metti dei macchinari che sono sì. per la loro grandezza, per la loro entità, sono appunto bloccati sul terreno, cioè imbullonati. No, è proprio siccome dando valore al capannone, che tu usi per produrre, per creare lavoro, per fare prodotto interno lordo, bene, allora noi ti tassiamo. Questo è anche questa verrà tolta, verrà tolta. Questa verrà tolta, ma non è una notizia che do io, è una notizia sì, sì, che certo, ma... per mettere le cose in prospettiva. Cioè, qui c'è una scelta generale, che è quella di continuare a dire, a dare un messaggio molto chiaro. Venite in questo paese, venite a investire, fare un investimento industriale in senso lato, cioè un investimento non finanziario in senso stretto, cioè un investimento per creare lavoro, per dare lavoro alle persone. Sappiate che troverete un contesto favorevole come mai avete incontrato in Italia negli ultimi anni, in cui i vostri lavoratori vengono tassati di meno. Sì, lei fa sempre il raffronto con gli ultimi governi precedenti, ma mai come negli ultimi governi, però rispetto al resto della tassazione nel resto del mondo, cioè abbiamo ben da recuperare. Lei ha ragione, ma io posso rispondere per un anno e mezzo di governo, e quello che so è che nell'anno quando siamo arrivati al governo alla fine del 2013, noi abbiamo visto due cose. C'era l'occupazione alla fine del 2013 più bassa che questo paese abbia mai visto, sì. Cioè noi raggiungiamo il punto più basso di numero di occupati. Il tasso di disoccupazione è un po' fuorviante, stiamo proprio al numero di persone che hanno un posto di lavoro. Avevamo era il terzo anno di recessione consecutivo, il 2013, anzi secondo anno a quel punto di recessione consecutivo, avevamo la pressione fiscale più elevata di tutti, e io a quel punto, se tu devi governare, non è che devi poi dire a Singapore le tasse sono più basse, i servizi sono più efficienti, sì, mi rendo conto, ma noi non eravamo... Uno deve fare il fronto con quello che con la situazione che ha preso in mano, ma su questo non c'è dubbio. Cioè, se Netanyahu si stupisce che dice noi in Israele abbiamo abbassato le tasse al 25%, capito? Non è che uno non pretende che dal 50% passino al 25%, se no lo Stato fallisce, parliamoci chiaro. Certo, però, abbiamo abbassato le tasse, che anche ieri Renzi ha detto, e che lei dice, si vede in concreto su chi ha ricevuto gli 80 euro, magari non si vede su chi ha una partita IVA, su tante persone, che però ci scrivono anche messaggi e dicono io questo abbassamento non... Ma e hanno ragione a segnalarlo, e sappiamo perfettamente che ci sono persone che non hanno, io per primo non ho ricevuto alcun beneficio fiscale, quindi cioè non è che non vivo in Italia, vivo del mio lavoro come tutti gli altri, però non è fare responsabile del PD, quindi sto benissimo quanto sono assurde le tasse, ma le tasse sono assurde per chi vive del proprio lavoro, cioè noi stiamo cercando di mutare un equilibrio, perché è molto semplice. In Italia non conviene lavorare, non conviene creare lavoro. Se uno lo fa è perché proprio è appassionato. Ecco, noi stiamo cercando di fare in modo che in questo paese fare lavorare non solo sia permesso, ma sia favorito, incentivato. E per fare questo, lei mi dice, guardi, che credibilità? Io dico, guardi, la credibilità è fatta di due passaggi. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso, e lei mi può dire, ma non è tantissimo. Io le dico, per me è tantissimo, visto il punto da cui veniamo. Quello che farete. E la seconda cosa, mi scusi, è come l'abbiamo fatto. Dice, guardate questa riduzione delle tasse. Siamo alla frase del ministro Padoan. Questa riduzione delle tasse è credibile se c'è una riduzione della spesa. E io dico, guardate, la riduzione della spesa che continuerà nel 2016, nel 2015 è già avvenuta. La riprova di tutto questo, io lo so che questo paese non ha memoria, però voi vi ricordate che abbiamo fatto un intero semestre, il primo semestre 2015, dice con lamentele complessive di regioni, province, enti locali, ministeri, tutti a dire che i tagli erano insostenibili. Allora, delle due l'una, o i tagli non ci sono stati, e qui abbiamo a che fare con una massa di squilibrati. Oppure ci sono stati. Sempre che poi non scatti quel meccanismo che a volte scatta, che le regioni con meno finanziamenti aumentino le tasse regionali. Però professore, sì, le voglio presentare un ospite che è un sindaco, è il sindaco di Invorio in provincia di Novara. Si tratta di Dario Piola. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e benvenuto. Ai suoi ascoltatori e anche all'ospite. Allora, il sindaco Piola ha acquistato una certa celebrità recentemente sui giornali perché è stato identificato come il primo sindaco in Italia che ha applicato un provvedimento dello Sblocca Italia 2014, che funziona più o meno così. Sei cittadino d'Invorio, non hai soldi perché non ce li hai, sei in difficoltà per pagare le tasse comunali, puoi lavorare per il comune, una sorta di baratto amministrativo, così il sindaco ha fatto? Veramente così. E come è andata? Ce lo spieghi? Cioè, intanto come le è venuta questa idea? Ma questa idea veramente è arrivata prima dello Sblocco Italia, in quanto un cittadino in difficoltà con la moglie disoccupata e lui in mobilità, per sua dignità mi ha detto: sindaco, io quest'anno la Tari, la Tasi, l'Imu, no l'Imu no perché non ha la seconda casa, noi avremo difficoltà a pagarla, ma io vorrei fare dei lavori utili proprio per la mia dignità. Però prima, senza lo Sblocco Italia, questo era praticamente impossibile. Con la legge, finalmente, questo devo dare atto a questo governo che è arrivato con Sblocco Italia a questa considerazione, ha detto: beh, ci siamo, possiamo partire. Però veramente, fatta la legge, prima di interpretarla, metterla in pratica, sì, ci è voluto un po'. Veramente, qui, cioè, in pratica funziona così. È vero che un'ora di lavoro per il comune, a che ne so, a tagliare l'erba, a sistemare qualcosa, un'ora di lavoro scala 7,50 euro della tassa che uno dovrebbe pagare. Ma noi abbiamo prima di tutto abbiamo fatto un regolamento e ci abbiamo lavorato molto su questo regolamento proprio per le difficoltà che le ho detto. Per arrivare a questi 7 euro non è stato facile, perché dovevamo dare un valore. E quale valore potevamo dare? Figurativo, fra l'altro, perché questo è l'operatore non prende una lira, chiaramente. No, è chiaro, gli si scala. Però come abbiamo preso? E anche qua ci la siamo un pochettino inventata, prendendo come spunto quelli che sono i voucher di lavoro, quello dall'INPS, che praticamente al netto sono 7,5 euro all'ora. Mm-hmm. Essendo dati dallo Stato, abbiamo pensato: qui siamo corretti. 7,50 euro. Quante persone a Invorio sono rimaste incuriosite o anche hanno chiesto di poter fare questa soluzione? Ma in realtà ci sono stati, la cosa è abbastanza recente, ci sono state un 5-6 domande, abbiamo fatto un'istruttoria, una persona praticamente ha già terminato, ha fatto metà del mese di agosto lavorando sulle strade. Sì, ma che cosa ha fatto in pratica? Ma praticamente quello, sempre rispettando questo articolo 24 del Sblocco Italia, riguarda tutto ciò che è pulizia, arredo urbano, quindi pulizia delle strade, delle vie, svuotamento dei cestini, proprio ha fatto questi lavori di pubblica utilità e ha tenuto il decoro delle strade, ha pulito. Certamente, per un tot di ore che equivalevano a quella tassa non pagata. Che effetto le fa, sindaco? Le chiedo proprio da amministratore, ma anche da cittadino, cioè sentire che ci sono suoi concittadini che dicono: io proprio non ho i soldi per pagare le tasse, e quindi, però, piuttosto che fare l'evasore fiscale, che faccio? Certo. Lavoro e per la mia dignità. Mi è piaciuta molto la frase che le ha detto: presto la mia opera per il comune. Che effetto le fa? Da amministratore, qui ha anche un responsabile, diciamo, se vuole, a livello nazionale, che ci sta spiegando come Renzi taglierà le tasse. Ma un effetto duplice: la prima è una grande soddisfazione, quindi vuol dire che abbiamo una comunità che ha una risposta solidale a tutti gli effetti, e c'è questa dignità di tutti. Però dall'altra parte anche poi vedo che nel pagamento delle tasse c'è chi può che non lo fa, e noi non abbiamo grandi strumenti su questo. Per questo mi rivolgo all'onorevole, dove io seguo con piacere la politica economica di questo governo, però ricordo anche il discorso dell'evasione. Sì. Perché se abbiamo la dignità della persona che ha poco e vuol pagare, abbiamo la non dignità degli evasori, di chi ha molto questo si sa. Ecco, professor Taddei, che non è onorevole, ma comunque può bussare certamente alla stanza di Matteo Renzi ed essere ascoltato. Però professore, le chiedo questo. Ieri Giavazzi, Francesco Giavazzi, sul Corriere della Sera ha detto: perché non togliamo tutti quei privilegi, o meglio agevolazioni fiscali? Quante sono in totale? 300, 280? Quante sono le agevolazioni? Dipende un po' come le calcoli. Diciamo che 300 è una buona approssimazione, se lei vuole proprio utilizzare. Cioè, che ne so, l'accisa ridotta sul gasolio impiegata per l'autotrasporto delle merci, o i tassisti, per carità, adesso mi sentono i tassisti, mi odieranno, perché devono avere questi privilegi, cioè, o agevolazioni fiscali? Guardi, questo secondo me questi due casi non sono nemmeno tra quelli più... Quello più clamoroso qual è per lei? Più clamoroso, guardi, c'è un sussidio, per dire, una deduzione per la estrazione di sale dal magnesio, che quello trovo straordinario. E lì quello sicuramente avrà avuto una origine in qualche corridoio parlamentare qualche anno fa. E però una quello che è incredibile per estrarre il sale dal magnesio o il magnesio dal sale, mi scuseranno i chimici. No, anch'io sono ignorante in materia. Però, non... l'ho trovata straordinaria, ma perché in realtà è pochissimo speso. Fate conto che quello costa alle casse dello Stato, se non sbaglio, poco più di un milione all'anno, quindi è una cosa irrisoria. Però è come quello, io posso metterne in fila letteralmente centinaia di questi tipi di detrazione e di sussidi. Questi sono tax, quelle che si dice con tax expenditure. Sì, esatto. Quindi sono tax fondamentalmente expenditure. Sono quella massa di robe lì. No? Verranno toccate? Sì, saranno un pezzo importante della revisione della spesa. Però, vede, appunto, abbiamo delle cose assurde. Noi sappiamo che c'è un effetto di, tecnicamente si chiamerebbe di trascinamento. Cioè, si immagini che lei fa una scelta totalmente totalmente folle. E quello che è incredibile è che il sistema fiscale italiano non ha gli anticorpi per rigettarla. Cioè, lei fa una scelta folle oggi, nel 2015, la probabilità è che se noi non interveniamo con un'attività ordinaria, cioè annuale, di revisione del sistema fiscale, tra 10 anni noi quella scelta folle ce la troviamo ancora tra i piedi. Sono certo che quella deduzione, forse nell'anno in cui è stata introdotta, aveva una giustificazione. È chiaro, pare eccessivo. Ecco. O forse una giustificazione, sì, ma come tutto in Italia, poi una cosa nasce magari bene e poi cresce male. Quel milione di euro che noi spendiamo, 1,5 milioni, io penso sempre alle alternative. Sa, come economista, sei addestrato a pensare a: se io avessi quei soldi, cosa ci potrei fare in alternativa? E con 1,5 milioni io potrei fare, mi vengono in mente almeno 100 progetti, 100 migliorie in una singola città italiana che possiamo fare. E togliamoli questi 100 milioni, non so, per estrarre il magnesio dal sale o sale dal magnesio, chi se ne frega. Adesso ci scriveranno gli estrattori di sale dal magnesio o del magnesio dal sale. Intanto spiegateci se si estrae il magnesio dal sale o il sale dal magnesio, già sarebbe un buon punto di partenza. Io mi devo fermare, vi ringrazio Filippo Taddei, grazie, responsabile economico del PD, così come Dario Piola, sindaco di Imborio in provincia di Novara. Ma vogliamo chiudere con che cosa? 24 mattino abbiamo una segreteria telefonica, allora beccate. Cosa? Più di un mese di ferie ti fai? E poi debosciati siamo noi, eh? Alessandro Milan, il piangina dell'informazione. Milan, chiaramente hai toccato il livello più basso di Radio 24. Dovresti andare a condurre Radio 105. Che ti dica Alessandro, tu stai in serie, Marino sta in serie, e che ti devo dire? Tanto non mi farai sentire, io non so con chi sfogarmi e sono una romana delusa. Milan, da se vengo in tre, Lazarun, un Lazarun. Ciao Milan. L'estate sta finendo e Milan tornerà. Finite le vacanze, sai come piangerà. Dai Emina, ricominciamo! L'estate sta finendo, è un anno se ne... Ebbene sì, ormai l'estate è finita. Sto diventando grande. E allora 24 mattino, oggi magari un po' arrugginiti così, ma abbiamo ripreso. Saremo più arrugginiti domani con la seconda sveglia delle 5 e dopodomani con la terza sveglia delle 5, avanti così. Comunque tutto settembre andiamo in onda fino alle 9.30, a partire dalle 6.30 come sapete. Potete anche scriverci a 24mattino@radio24.it, la nostra mail. Potete seguirci su Facebook, su Twitter, sul sito, ovviamente www.radio24.it, abbiamo tante cose in più e tanti contenuti extra nella nostra pagina di 24 mattino. E che dire, saluto. Ecco qui l'altro corner, 5 saltatori, ecco Luis Adriano, 2-1 Milan, ci pensa Luis Adriano, vabbè, la sblocca lui. Ci attacchiamo agli attaccanti per ora, ci attacchiamo agli attaccanti con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, il nostro Peter Bescapè in regia, ci attacchiamo agli attaccanti, agli attaccanti. Attaccare! Per l'appunto. A domani alle 6.30. Attaccare!